stato collegato, perché l'avevo collegato tutto tardi, perché c'era un temporale stamattina. Ok, mi senti già? Ok, io scusa, mi stavo posizionando la situazione. Sono la Franco Zenocchi. Sono lì, Bologna. Tutta una pattuglia, aspetta, sono telefonino. No, io l'ho messo in carica perché veniva a mangiare tutta la batteria. No, non fanno. A meno che si rovina le batterie così, perché la fila di usato, poi devi stare sempre caricandolo, e lo sai che la batteria c'ha un'autonomia di carica, insomma, va, la necessità della cosa. E dopo serve solo per togliere la gente dalla frequenza, come prima che si usava, eccetera eccetera, e volevo solo vedere la gente alla frequenza, ma dopo dopo va con la luce notturna, con la blu, è una cosa. Aspetta, hai già una cosa da farci, è diverso, sì, perché avevo, quando ho cominciato la batteria al 100%, ce l'ho al 36%. Ehi, te lo stai dicendo subito, poi te l'ho detto, quella di caricare la batteria si parte, non è così, quella di caricare si parte, casino, ma però, forse anche noi siamo antichi, io già ne so, ma l'hanno fatto secondo me per far conoscere Baracchino anche ai giovani, siccome i giovani non li usano, allora gli hanno messo l'app di modo che tutti almeno la usano anche loro. Loro entrano al computer, quindi vi piace e la vedrò come una cosa nuova, capito? Invece nell'altra maniera non entrano. Via. Comunque poi no, questo sta per arrivare lo stesso, Te lo sai qua. Siamo qui, che puoi arrivare lo stesso. Ma sai che c'è la linea? Ah, bella Roma, come hai visto? Come so? Sei il 9-10, per la 10. Scappa. Ok, tu vai diretto. Il mio deve scaldare ancora. Dai. E questo, è già troppo, questo partito a freddo. E così come sono, insegnato? E così, sì, vabbè, poco fa eri quasi 9-10, adesso il 9-10 è completo, tutto più pieno. Però sei saturo. Non so, ma non è la saturo. Ok, però adesso 9-10 perché eri già lì, però adesso invece è 9-10 pieno, però si è saturato la radio. E così, normale, come so. Così sei 9-5. Non andava bene, già va bene lo stesso, quindi la radio è chiara. Venga, sì, no, la radio è bellissima così, ma anche se anche aumentando potresti regolarti la radio, non è detto che le fonti stato anche se mi metti alto un po' alto fuori qua. No, l'ho regolato. Io se lo metto al manetta a Sartola, lo so, se lo metto al centro a mezzogiorno come dell'apparato ma avanti chi vuole entrare? Ah, mi senti perché? Ho sentito su, però non ho capito che chi era. Ciao ciao a tutti e due, non avete un po' quel soppa. Allora, io perché quanto arrivo io? Più di 9. Uguale a Gianni. E io la vedo, e tu ce l'hai di fronte. E fine avevi fatto, doppio rutte. Buonasera, impegni montani. Impegni montani? Allora, se ho impegni montani vuol dire che si monta forte. E poi, Claudio, con questa storia di quest'anno, pensavo che la stava più entrando nessuno alla verità, ma c'è un paio di volte, la sua verità, quindi ho detto, magari con questa che hanno preso CP tal, stanno entrando tutti lì. Oh, ci sono un po' di ex-CP, anche dal continente, sono quasi tutti ex-CP. A me, tu mi vedi, intendi su CP tal, non c'entro io, proprio così, aspetta che... volta entro a salutare così, ma non sono frequentatario, così si dice, di quella roba lì. Già, io non ci sto entrando, oggi sono a casa qua a Sassari perché il tempo è brutto, stamattina è andato pieno di neve, infatti devo scendere in campagna, non siamo scesi, cioè io non ci sono sceso, perché il tempo era brutto, se no io non ci sono mai, mi puoi dire a Franco, qualche volta che sento a lui e a Giulio entro a salutarli, ma io non ne ho più voglia di stare a prendere freddo e a perdere tempo, non per mai nessuno, oramai sono tutti in questo gatto di BMR, mi sei entrato in culo sul BMR, boh, vai Fra. Scappa, ieri sera non ti sei fatto sentire però, Giulio ti stava cercando. No, ma Giulio lo sa che cosa c'era ieri, no? C'era il Milan alle 3, quindi io mi stavo guardando il Milan, poi c'era la Juventus alle 8:30 e quando ci sono le partite noi siamo un po' così riuniti e cosa posso, metto qua la radio e l'altro cosa faccio? E quindi non ho acceso per niente, a parte il fatto che non c'ero neanche a casa, quindi capito mi hai fra, tutto qua. Io se sono qua la radio la accendo volentieri se c'è qualcuno, se non sono qua vuol dire che sono dall'altra parte, è baracchino, l'ho detto, l'ho fatto, io non ne metto, non me ne affutti più nulla, vai già. Ehi, quante volte l'ho sentita questa frase, via, fino alla prossima volta, sempre difficile. Io ho sempre ogni tanto l'accento, ma dico la verità, vedo impegnato, diciamo che avevo di qui di spinti, quindi non ho acceso per questo. Purtroppo adesso mi ritrovo di nuovo col piede aperto e quindi sono a casa, quella di Roma. Non riesco manco a mettere il piede in terra, era dolore. Vuol dire che hai forzato troppo. Hai spinto troppo con il piede Gianni, lo dovevi togliere il piede, capito mi hai? Certamente cosa dizia Gavino Romacco a Porto Torre se quando dormia con la mamma, boga lo ginocchio a mamma. Ma Gavino lo puoi? Allora, comunque ti avevo una bruttissima notizia, io te l'ho data via WhatsApp, detto non voglio rompere le scatole Gianni, lo sai che è morto. E noi manco ne sapevamo, io sono stato al Ghero e sono andato lì a trovarlo e purtroppo mi ha aperto solo la moglie e veramente mi sono sentito veramente male, ma male, male, male. È morto Pinenzo, Pinangelo. Oh, sì. E di che cosa? Guarda, ti ricordi aveva sempre questo problema al piede, non si è mai fatto curare, sembrava una gotta, non sembrava una gotta, una trombosi. Si è andato a trombarlo e ti ha fatto la musica. È già una brutta avventura, credimi. È morto l'anno scorso, infatti io chiamavo, però il telefono era se l'unico numero che avevo era quello, capito? E quindi il telefono era sempre spento, ma mi sono rifatto perché veramente è una cosa troppo bella, ho la sua radio, tu immaginati che mi sono venduto il mio 440, e mi sono tenuto quello di Pinangelo che tra l'altro era il mio e l'avevo venduto io nuovo di zecca, mai usato, ho fatto dare una revisionata, un controllo, però è perfetto in tutto, non c'è nessun problema e questo non uscirà manco se me lo pagano a prezzo d'oro da qua. Vabbè, si è fatto l'affatto, quindi era cavolo di fuoco. Me l'ha regalato la moglie, me l'ha regalato, mi ha detto riprenditi la radio di Pinangelo, lui ci teneva tanto, soprattutto a te, infatti l'ultimo periodo dovevo sempre passare, dovevo passare, perché è stato anche in ospedale, capito? Dovevo andare, invece non mi so come è andato, e la moglie è proprio, gli è sfuggito completamente a avvisare un po' la cerchia, però non aveva numeri di telefono, capito? Vabbè, andata così, è una grande esperienza, perché la veramente tu l'hai conosciuto, un amico, io anche ho dormito a casa di Finangelo, figurati. Mi è piaciuto tantissimo, anche perché non sono stato in grado di andare a trovarlo nel momento in cui è stato male, tutto qua. Va bene, avanti Franco, riprendi. Cos'era? Un CB era? Un radiatore? No, un CB era di Alghero. Era di Sassari, ma abitava Alghero. Non mi ricordo di questo Pierangelo. Pierangelo, ex pompiere all'aeroporto. Non lo conoscevo, per la verità. A volte, Claudio, la scusa può essere una, poi con quella scusa arrivano gli altri mali, è un casino, tutto. Oggi non mi riesco niente a visto, ce n'era uno qua, un amico che c'aveva qua, che era napoletano, e abitava qua da tanti anni. Eppure tutto il colpo, la mattina era lì al negozio, come è stato a farci la spesa, la sera era morta. Vabbè, comunque lui si è un po' trascurato l'ultimo periodo, perché non è che ci teneva molto, capito? Faceva male sto piede, ma da tantissimo tempo. Ogni volta che andavo era sempre zoppo, ma perché non ti fai contrarre? Quella è la gotta, ma già passa, ma qui lo sai com'era? Gianni già l'ho conosciuto. E invece da quella gotta praticamente è partito, così diceva lui, era una gotta, partito un embolo, si è alzato a capo, ci è rimasto. E vabbè, pazienza. No, c'ho 4,40, poi c'ho altre cosette che mi servivano, insomma, ho preso tutto, ho lasciato un po' di soldi, anche se non ne voleva, però li ho lasciati. E basta, niente. No, chiaramente ho detto qualsiasi cosa bisogna ricercarvi, ho lasciato il numero nuovo, perché lei chiamava, però chiamava il numero vecchio che aveva Pinangelo nel numero di telefono, nel telefonino, capite? E quindi a me non mi ha trovato, perché a me già mi conosceva, ma gli altri non ha potuto avvisare. E vabbè, pazienza. Sì, già me lo ricordo bene. Roba di risate mi faceva fare, era un po' simpatico. Entrava in casa sua, c'era il cancello camuffato con l'edera. Tanto non si capiva proprio che c'era il cancello, l'aveva camuffato perché dice che non si poteva fare in patarani. E dall'altra parte, per portare il cane, c'era quel giardinetto che aveva ricavato, capito? E lì, siccome è un condominio un po' di merda, quindi aveva fatto questo cancelletto in legno, te ricordi, come l'edera era attaccata. Infatti ora lì la decido anch'io, ho detto, ma dove sei uscito, ma dove hai saltato? Qui guarda, non lo vedi? Io gioco, poi te ricordi come parlava. Era Alghero, ma parlava più sassarese che l'algherese. No, troppo poco. Ho tolto l'antenna, tolto tutto, abbassato, tolto tutto, l'antenna era completamente marcia, ecco perché lui non usciva, completamente marcia, il connettore del PL era completamente staccato, l'antenna l'ho smontata e devo andare a prenderla perché ero con la macchina piccola e non ci stava, quando salgo al Ghero con quella grande la metto nel cofano, la porto giù. Qualche pezzo servirà, per il resto è andata da uscire. E vabbè, come eravate nell'applicazione? Se eravamo su 14 nell'applicazione, che c'è? Ma ho provato, perché ho visto che Antonio l'ha messo su Facebook, ha scritto altro che barattino è questo qua, madonna. Barattino ti tratta la cosa, trovi lì davanti, anche lui ti vuole la sua parte, che fa questo. Trovi lì davanti, tutte le illuminazioni, persone, è tutta un'altra cosa, a me. Quella è troppo fredda come cosa, sì, tu mi dirai, è troppo facile, è la stessa cosa che non prende ti regala i soldi e non te li dà voi. I soldi facili sono, è la stessa cosa è questo, è una cosa troppo facile arrivare lì, perché arrivi con i ripetitori, non lavori, lavoro nel ripetitore, invece con Valentino lavori, ci metti lineare, ci metti potente, ci metti microfabbricato, ci metti tutte queste cose, tutto per arrivare in certi punti, o no? Si conferma, io non ho già parlato di questa cosa, è una cosa interessante per chi ha voglia di usarlo, ma il telefono già lo posso avere poco, immagina dei due, si è già questa cosa in mano, fa vedete. Ogni tanto si può fare, dai, facciamo una prova qui e là. Ma a me piace la radio. No, già di là non posso mettere, non posso mettere perché non c'ho posto. Non ho posto, cioè guarda sul coso di WhatsApp che nel mio, come si chiama il coso di WhatsApp mio? Guarda come la casa, non dove la metto, esteticamente è molto brutta e non, assolutamente non ci vediamo nessuno io, quindi c'ho le V e le U e basta, e boh. Il resto per il momento rimane tutto qua, quando poi riesco a vendere, perché a vendere è difficile, molto difficile, il mercato si è abbassato tantissimo, allora prenderò una decisione. Per il momento non me ne fottevo più nulla, intanto non, quando sono lì ho altre cose da fare, sto completando tante altre cose, quindi non è che posso stare attaccato al baracchino. Pazienza, avanti Franco. Pare che sia Zavaglielli, più di cammini di Zavaglielli a Vali, a questi disegni. Allora Fra, guarda, io ti posso dire che non hai molto torto, perché se io ti mando una foto dove praticamente è arrivata, allora se non sono in campagna sono qua nel condominio, perché stavamo usando la 21 metri, però abbiamo già finito con i poggioli bassi. È arrivata una 43 metri, che sembra un ragno, una cosa da paura, è arrivata sul pianale, immaginate tu, e ce l'abbiamo dentro, se vuoi ti mando la foto, così più o meno ti rendi conto di cosa. Allora, eccolo qua, Franco Sorso, ti mando la foto, più o meno ti accorgi di cos'è il tuo mostro. Di cos'è che ti mostro? Guarda, te lo mando, ma è grande, è alta 42 metri il braccio, guarda, te la sto mandando Fra. E quindi tu immaginati, prima stavamo lavando con la piccola, adesso siamo con la grande, te l'ho mandata con questa grande, e quindi sto facendo abbastanza ore con la situazione condominiale. Quindi o sono qua impegnato, sono impegnato in campagna, perciò sto sempre lavorando, Fra, capito? Riprendi Gianni. Sì, almeno si fa che un po'. Speriamo di andare benissimo in campagna, penso che abbiamo critiche che con tutti i ricordi non si può continuare ad andare a lavorare. Sto lavorando, ma la sto tirando proprio già, o fai 38-62 e vai in quota 100, o per andare in pensione 40 anni i contributi ci vogliono, a meno che non abbia un titolo in validità, ma penso che non ti basti economicamente andare in pensione solo con invalidità, quindi 41 anni ci vogliono, 41 anni e 6 mesi per l'età che abbiamo noi, perché tu sei quanto me, se no non lo so già, boh. Non lo so, te l'ho già detto, ne abbiamo già parlato, è una situazione un po' particolare la tua, perché se riesci ad andare così con questa invalidità, già, non si può, è troppo poco, devi raggiungere la contributiva almeno per star bene, non dico quanto è lo stipendio, ma come abbiamo fatto io e Franco, pazienza ore di differenza non me ne fotti nulla, capito? Però lì è troppa la differenza. Ma io ho 5 anni di cibolo, bravo, non lo sai, ma io ho 5 anni di cibolo, con l'80%, ho 5 anni di cibolo e vado fra un anno e 6 mesi in pensione. I 5 anni di cibolo già sono buoni, vabbè, a me mi hanno dato 2 perché avevo già maturato i 39 fatti, ne avevo 39 contributivi, più 2 me ne hanno dato lavoratore precoce e quindi sono riuscito a andare via. Se così Gianni, cosa stai aspettando? Non è falla, intanto guarda, la differenza c'è sempre, non è che sia uguale allo stipendio che prendevamo, la differenza c'è, però non si muore di fame, grazie a Dio, la differenza è poca, capito? La differenza è poca. Vabbè. spiaggia, se si può fare falla, perché sennò non si può andare a travagliare quando uno ve la fa di più. Io ho buttato la spugna proprio una mattina, mi sono alzato il piede sbagliato, perché 2 anni me ne potevo lavorare, però non ne avevo le balle piene per tante cose e quindi ho buttato la spugna. Arrangetevi, picchetevi, ammazzetevi, fedi fa ammazzare, fedi dice rebbiati, vai fra. Ecco, ma questa però, ma così solleva quella, senza avere piedi, niente, sulla ruota. Ah, ascoltalo ti stavo. No, non è, ma questa presentazione, quella è tutta idraulica. Le ruote, se tu guardi bene, ci hanno dei pistoni, si allargano e stabilizzano. Ti sto dicendo che l'hanno portata su, non ha cabina, non ha niente, si guida dal cestello, è tutta joystick. Una goccia impressionante, costa 250.000 euro, è della Tecnoalt, quelli di ottava, che affittano le gru, le cestelli, le piattaforme, eccetera. Quella lì, capito? È una cosa allucinante, tu la vedi, cammina, sembra un ragno, si sposta nella strada per spostarla, poi se sei a 40 metri, col joystick puoi camminare. Mi ha fatto ascoltare la tra di l'operatore, perché c'è l'operatore bravissimo, veramente molto bravo, era intorno ai 28-30 metri, era al settimo piano. Maestro, controllami la punta del marciapiede, perché era fuori nella strada, abbiamo preso anche, fatto la facciata esterna e i vigili hanno trascinato la strada. Quando è arrivata c'era il vigile urbano per scaricare, abbiamo tutta la gareggiata, l'hanno da ottava sassa, l'hanno ascoltato i vigili urbani con i lampeggianti. E da sopra aiuta questa cosa e muovisce, aiuta, oh, mica sta camminando, oh cazzo, gioco io. Da sopra la fa camminare, capito? È una cosa allucinante, bellissima. Ma visto ogni abito di braccio, e non si fa, la foto non riesco a farla tutta, ma è un mostro. Quella si stabilizza con le ruote, si allargano e si stringono e si sollevano per livellare, capito? Tutta dalle ruote fa, tutta idraulica. Mandamela qua che ci piacciono le direttive sopra l'antenna. Sì, c'ho quella piccolina, che la piccolina la guido io, la 22 metri. Ci vuole la cima, io la guido lo stesso qua dentro per spostarla, non c'è problema, un camioncino con la 22 metri, chi sa più fatto. No, quella non può camminare nella strada, lo fa, la porta lassù su un sacco di lago rubianale. L'ha portata il figlio di Gigi Vulcano, ce l'ha portata. Mauro già. Ah, quello che faceva il muratore qui. Esatto, quello che guida il camion di Simula, praticamente vabbè, lavora con Simula, dai, trasporto eccezionale. Vabbè. Sì, adesso che ce li avevi potevi piazzare a te quanto volevi. Ma da me, anch'io, ma arrivi a sopra, no. Arriva sino al parapetto dell'ultimo piano della mansarda. Leggermente un metro oltre va, ma non ci arriva, ci sono le antenne quella da terra, non stai scherzando, sono a 52 metri io dove ho le antenne già. Ma c'è la qui la no? Già, non c'ho gente che mi possa dare una mano, sino impegnato in questo periodo, Massimiliano sta facendo lavori a casa e poi il tempo è brutto. Appena riprende il tempo buono abbasso tutto. Il controbox l'ho già staccato, perché tra l'altro il vento alla direttiva gli ha fatto niente. Al controbox deve essere qualche sbalzo di tensione, ha bruciato qualche componente, non mi fa andare né avanti né indietro. Quindi l'ho già smontato, devo portare da Andrea che mi deve cambiare questo componente, che è successo anche a lui perché sono molto delicati. Capito? Però la direttiva non c'è niente, tutto a posto. Sì, abbasso, in primavera abbasso e tiro giù tutto, tolgo tutto, perché già io tutta l'estate sto in campagna, quindi non posso stare pensando che arrivi un brutto tempo di quegli estivi che sono veramente brutti e faccia danno, assolutamente. Quindi abbasso tutto, lascio la manta, va al suo posto e basta, la 510 me la porterò via e lo devo fare per forza, cosa fai? Anche perché se non ci abiti non è che puoi lasciare tutto il tetto così incasinato. Ma tu sei deciso, un po' là. Adesso sto facendo così, oggi giù di va. Oggi sono qua e c'è più caldo. però là è favoloso, è tutto a posto. Non hai visto la casa, come si chiama il coso di WhatsApp, nello stemmino di WhatsApp, dove c'è il coso dello Stato, quello lì, eccetera. Da lontano l'ho fatto, ma comunque abitabile al 200%, non c'è il problema, però io ancora c'ho cose da fare qua, già capito, c'ho cose da fare qua, e quindi è così, va bene, avanti va. Sì, diciamo che la campagna si sta meglio di città, ci sta, come tutto, no? Più silenzio, più sereno. Mentre in città rumore di macchine, una cosa o l'altra è un casino niente, e rumore è un casino. Io prima era la strada era non era trafficata questa che ho io qua, ma quando hanno aperto quel pezzo per andare a Signori sembra l'autostrada del sole, sembra qua. Poi c'è la macchinetta, l'ha fatta sul tetto. Quella di quello che abita lì. A me da mettere la punta, però sai quanto pesa quella macchinetta? Un casino pesa, tutto in ferro, a me da mettere alzata. E la sala capisciuta la punta qua, con la Fernandi nostra. E c'è quella stradina che porta da casa tua, porta al coso, al sorso, a Secoli. Io la facevo sempre col calice. Quella porta alla Giorra, no? Fra, dove ci abbiamo l'impianto noi per andare da Vitto. Sì, passa proprio da Banda l'impianto. E sì, anche noi passiamo lì per andare a Sassari, al posto di scendere in un paese. E si fa uscire dalla stazione, usciamo da qua, facciamo prima. Io faccio prima la qua. Addirittura quando fumavo andavo a cena per me sigarette, facevo prima. Che è troppo stretta quella strada, se sei con il camion ti devi fermare, stiamo prendendo macchine, perché sennò ti sbatti, è troppo stretta. L'ho misurata un giorno, ho fatto la, perché a volte io da Sorso, però da giù dall'impianto di Sorso, dove c'è prima la marina, da lì a fare il giro al contrario, e invece da dove sei tu a fare il giro praticamente da San Camillo, stessi chilometri. Come? Da Signori o da San Camillo? Cioè da San Camillo uscendo da Signori oppure da Sorso, sono stessi chilometri. Allora praticamente non contiamo dall'impianto, contiamo dalla stazione, dici? Partendo dalla stazione a Sorso, a Sassari, all'ingresso di via Pascoli, no? Stessi chilometri da partendo da sopra, da dove esci tu però, praticamente contando la partenza da Vitto, per capirci, e dalla stazione. Sono gli stessi chilometri arrivare giù al chilometro, all'incrocio del chilometro, vai. No, non l'avevo mai guardato quello lì, non l'avevo. Io passo, vabbè, io passo sempre da qua, ma che passo da qua. Da là, certo, se sono in piazza giù e devo andare a Sassari per una cosa o per l'altra, esco dall'altra parte. Però quanti chilometri erano, se erano uguali, non l'avevo mai notato. Sì, sono uguali, perché tu ti ricordo che quella che partendo dalla stazione congiunge con quella che viene da Sinno, no? Sai che c'è l'incrocio. Quindi tu praticamente che cosa fai? Fai da casa tua, fai il pezzo della circonvallazione e poi attraversi l'incrocio che esce la strada che parte dalla stazione, no? E poi fai tutto San Camillo, sempre uguali. Quindi quel pezzo lì compensa con quello che fai tu, no? E sono uguali i chilometri. Sì, ho capito, No, non lo sapevo. Non lo sapevo. Sono uguali. Vabbè, diciamo che a scendere da qua a me non mi conviene. Non mi conviene. A scendere da qua, poi scendere dalla stazione, sì. Prima facevamo così. Perché qua era quando era chiuso. Qui i gianni non la possono allargare, perché se la allargano bisogna mettere, alzare i muri, ci metto armato prima del paese, bisogna passare, perché le macchine lì ne scendono a 200, e al posto di sbattersi alle case si dovrebbero sbattere ai muri, non alle case, perché a una si immagina che sono su Gaza. È pericoloso, molto pericoloso, io lo so. Lo so. Oh, frate, lo dico perché io con la macchina di servizio avevo il chilometraggio, capito? Avevamo la tabella di marcia, quindi io dovevo segnare i chilometri percorsi sia in andata che in... E un giorno stavo, fatto io il contrario. E ho visto che era uguale. Non cambiava niente, forse 500-600 metri di differenza ci sono per incrociare, per l'incrocio proprio che scende la Senna, però è uguale, non cambia niente. Vai già. Ehi, a poi frate c'è anche i cavalli vicino a casa. Ehi, una giovata di anni in Chivi che si impianto, morendo da Rovredo, che sono gabbiotto, che lascia perdere, già lo so, ci sono cavalli. Lì lo sai chi abita anche, salendo per andare da te, ha fatto la casa bellissima in Avellone. Il genero di dottor Rubatto, la figlia Rubatto ha fatto la casa lì, come si chiama? Ma che c'aveva il bar lì che poi l'ha chiuso, adesso mi sembra stia facendo un paio di appartamenti, c'è il bar a Sassari però, parlano del Manhattan. Oh, io lo conosco. Bravo, conosci il dottor Rubatto? No, da questo qua no. Il bar magari è rubato proprio l'altro, sì, già lo conoscevo. E questo qua, sì, un grande loro ha fatto. E sotto, non è quello che si vede sopra, quello che c'è sotto anche è da vedere. Siamo amici. Dottor Rubatto ti sto dicendo, lui non si chiama Rubatto. Il Manhattan, quel bar grande dove c'è la Cobec a Sorso, dove c'è la Cobec a Sorso, te lo dico in impressa, vabbè, ce l'ho anche su Facebook adesso, non mi va lì, è del genere dottor Rubatto, la figlia quella di dottor Rubatto, farmacista, beh, è più ricco di Senna e non lo conosce. Io Rubatto conosco con il portotorre, il farmacista. Quello è, non è portotorrese, no? Quello è sennovese, è il più ricco di Senno e non sa manco cosa va. Ho capito poco fa che volevi dire, io ho detto Rubatto, però è dottor Rubatto, quello che c'ha la farmacia a Senno, a Porto Torres. Ci ho capito che è quello lì. Di Senno è Rubatto, mi sembra che c'è solo lui. Certo che sì, la figlia è sposata, convivono. Forse è sposato con quello che c'ha di Sorso, che c'aveva il Manhattan lì, era un bel bar grandissimo, Manhattan 1, e il Manhattan 2 è a Sassari, ed è dove c'è l'Acci, Gianni, via Per Antoni Satta, quel bar che c'è via Per Antoni Satta, quello lì è il genero del Rubatto, non sa manco cosa va, ti fuori di va il cobizzino, un po' più grande di mia figlia, mi pare che abbia 34 anni e gira con un vuoto della Volvo, fatto un botto, ultimamente aveva la Jaguar e va a un bar, sono tutti di là di giorno, te la non sono di giugno. No, allora i ragazzi non li conosco, non li conosco per niente. Ho visto solo che hanno fatto questo villone qua, hanno fatto la villa, però e niente, infatti mi sembra che sono venuti anche a abitare adesso, sono venuti qua, perché prima non c'erano. Io abitavo in un'altra casa che aveva a Sorso, vicino alla marina, praticamente dopo le Magnolie esattamente, c'è un viotto che si entra, un'altra villa Bonichivi, capito? Sono tutti terreni del socio, di lei praticamente, o del socio, di lei, terreni che sono toccati a lei, carta figlia unica, a Nadina Sabizzina. È una se figlia unica, sì, allora ti già. A dottor Rubatto c'è anche la farmacia Sorso, quella che c'è vicino alla stazione, non è la sua? Rubatto, farmacia Sorso. Qual è la farmacia? Ma quella su... ho capito. Ah, di Rubatto quella lì è. E vicino, adesso ci sono i cinesi, lì ci sono, prima c'era un supermercato. Dove c'è il supermercato, per farti capire, quello è tutto di Rubatto. I locali, il terreno, lo stabile, tutto di dottor Rubatto quello. Pagano tutti l'affitto. La farmacia quella è di dottor Rubatto, ma non ci sta dottor Rubatto. L'ha data ad un altro farmacista, capite? Quindi tu, ma sta gente che va a mezzogiorno e mezzogiorno e ne avanza a burro. Certo, non sapevo che era rubato quello lì. Comunque quella farmacia adesso l'hanno spostata, prima era a fianco a Acqua Sapore, poi l'hanno spostata e l'hanno messa in un altro locale. Guarda, io ho lavorato in Difarma, sto parlando di secoli fa, perché oramai mi sono ultimamente dimenticato. Quella farmacia ce l'ha Sircana, dottor Sircana a Sorso, però era di Rubatto ed è di Rubatto. È accompagnato pure il figlio Carino, che dice dottor Sircana. Oh, sì, già ne hanno. Hai visto il coso dove abitava la signora Maria de Murtas, la prima farmacia che tu hai conosciuto, Corso Vittorio Emanuele, e che ha comprato tutto lì, tutto Rubatto ha comprato. Poi dall'altra parte ha comprato Cinque Rui, però dove c'era dottor Pani, tutto quello stabile, vecchio, tutto dottor Rubatto lì ha comprato, dove ha fatto la farmacia nuova. E circa non c'è tutti quanti locali che ci sono sotto i miei palazzi che ci sono in via Amore, i locali sono sicuri. Intanto non hanno i popolacci, tutti e due. Sono i maggiori azionisti della Difarma, fatti Rubon, tutti e due. Dottor Sircana, dottor Rubatto e Simon, capito? Sono i maggiori azionisti della Difarma, per non dire i padroni della distribuzione farmaceutica per il nord della Sardegna. Ma quello Sircana è qua di fronte ai giardini, poi dietro ci sono anche, adesso non so se ci sono ancora, quei laboratori medici, non so cosa fazia, quindi mi sembra che era sempre di Sircana quello lì. Laboratorio di analisi c'era lì, non so se c'è ancora, sì, ma tutta quella zona lì è Sircana e Rubatto, capito? Tanto è vero che Sircana è rimasto lì e Rubatto ha aperto la farmacia a Porto Torrice perché ha comprato mezza piazza, capito? È un bel di Navani, fra. Ecco, via Baelli, generale. Oh già, ti devo risposare la figlia? Vabbè. Attesa, non l'ho conosciuta io prima, se no magari ci avrei fatto piacere. Questa gente qua nasce con la camicia, sposa una amica, è a posto. Non è simpatica, è bellina ma non è simpatica. A me quando parla, perché ci conosciamo abbastanza bene, perché da poco sono andato a Lacci per fare una documentazione e c'era lui e lei è arrivata subito dopo. Lui c'ha la mini, strecchi, come si chiama, truppi, treppe, esatto, insomma. Edda, che è più piccola di mia figlia, ha 29 anni. C'è una macchina già da 50-60 mila euro, fatti lo conto, che l'ha regalato lo babbo quando si è laureata, perché anche lei è laureata in farmacia. Però è bellina, una bella ragazza sicuramente, ma quando apre bocca a me me ne fa scendere le balle, per non dire altro. Non la conosco, non posso dire niente. Non la conosco. Vabbè. Prendiamo quello che ci offre il convento. Ormai è andata. Dopo 40 anni. Sì, 42 io, fra poco, fatto un conto. Beato te. Io non mi sono ancora fermato. Che si ferma è perduto. Morto un papa ce ne fa un altro. Io va bene così. Non mi posso lamentare, grazie a Dio. Almeno quello, non ho problemi su quell'atto lì, tutto procede bene. Se Gesù Cristo ci lascia, se vengono la vicaia, se no, chi ci muore prima se ti cura qualcosa. Non lo so, dove? Sì, se lo guardi. Magari più contenta. La mia, guarda, con tutto il cuore lo dico, tanto è qua, lo sa. Mi fa piacere perché è abbastanza tranquilla e serena e non ero più palle per come sono io. Sì, non v'è. dice, voi non siamo già mai dei, mi testa a parlare, che muore prima tu di me, tu muori prima di me. Ah, è che allora. Oh, fra, dopo ti chiamo perché ti devo dire una cosa molto, no, non inerente alle radio, a Ceramedia, eccetera, no, un'informazione ti devo chiedere che non ti posso chiedere qua alla radio. Capito, che è di uno che non c'è più, ma voglio essere sicuro se è vero. Mi pare strano. Vabbè, avanti già. Ah, ma io avrei fatto le corna. Non ti ha sentito. Io già corna. Bah. Quello sa solo Gesù Cristo già. Io e voi abbiamo 2 anni di differenza, non è che ci sia molta differenza, però solo lui lo sa chi è che deve campare e chi se ne deve andare, purtroppo è così, come ha detto KK, va bene, il tuo fidanzato ti sei già, lascia perdere. Sì, fidanzato la palla grande. Sì, vabbè, quella è una battuta. No, soli, per carità, no, soli, lui, a sabbi, no, io a volte mi accorgo quando sto tutto il giorno, il campanello è solo, mamma mia, che bella noia, non male che già metto a fare, se no guai, oppure che c'è vicino, ogni tanto con i lavori, ehi, caffè ce lo prendiamo, vai, non ha male, vieni, prendiamo il caffè, se no stare soli no, non fa. Assolutamente. Avanti, fra. Lasciate perdere le donne, lasciatele perdere. Ci sono quelle brave, ci sono quelle cattive. Sempre le scegliamo. Oh, Claudio, è Pippo. È Pippo lì, è disperato. Lui quando è qua a casa è disperato. È disperato, lui piace l'aria aperta, sta sempre in vola, a correre e a fare, capito? A tirare, è sempre fatta gli atti, sempre andando ai torrenti, è un poco mannaro. Quando è qua, poverino, adesso lo sto guardando, qua mi sta venendo, perché ha sentito la voce. Se no già, sta sempre addormentato. Tic. Allora, c'è. Fu. Fate sempre mania di gelati, cazzo. Con questa lingua sempre leccandosi il naso. Ma anche il tuo fa così. No. Si allecca, però ogni tanto, no? Non sta sempre. E fatto di dormire, sì. Fatto di dormire, lui è come me. Quando mi trai io non viene vicino a me. Sempre sta sempre appresso in casa, sempre la mia ombra, sempre appresso a me. E niente, ci ho pensato perché un'amica mia si ha preso una medica e sono andata a vedere su internet, cercate a fare una pittora, ho detto, come quello di Claudio, che la pittora grossa e basso rimane con la pittora grossa, sennò se tratta di chiudere ti dà a terra il cane, anche quando è grande, perché è una taglia mia. Un'America Bulma, però va 3 mesi che c'ha queste zampe, poi è intelligentissimo, dice siede, che si siede, prende quando gli dà da mangiare, prende la tazza in mano, la scuola in mano, se la mette in terra e dice non mangiare ancora, è fermo lì, e lui sta fermo, dice vai a mangiare, e va. E lo sta abituando bene, gli sta insegnando un sacco di roba, la figurina. Sta facendo molto intelligente, ho letto il carattere, è intelligentissimo, è considerato 3 cani pericolosi, però c'è addestrato e si difende sempre dal padrone. Io ascolto tutti i video di addestratore, ha detto che difende sempre dal padrone, che questi cani sono pericolosi con le persone stronze che li addestrano male. È normale, tutti sono così. No, ma Filippo non è razza bassa, no? Mi pare 80 alto, 80 è alto, 78 mi pare c'è scritto una cosa, l'ultima giornata che l'aveva fatto, ma è grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, è mio, un fuori Italia già, siamo bulldog inglesi, non ce n'è neanche uno così alto come Filippo. Ma te l'avevo mandata la foto che gli ho fatto nel Poggio in campagna. Ti mando la foto, Busardo è un rinoceronte, baci. Avanti, fra. Vabbè, i cani, cioè ci sono tipo pitbull, quelli ce l'hanno, ce l'hanno di, quel DNA ce l'hanno per allenare, cioè tu quanto lo abiti, quanto pensi di cambiarlo un cane, ma mi sa che non riesci mai a ciamballo, il carattere non lo giambi mai, a chi loro ce l'hanno nel DNA quello lì, da allenare. Certo, naturalmente penso che il padrone oppure i bambini, queste cose qua che sono che vivono in casa con lui, sarà sereno, ma magari c'è la visita un altro cavoli, preso. Allora, innanzitutto pitbull sono tutte quelle razze americane, sono tutti pitbull, li chiamano in generale pitbull, c'è l'American pitbull, c'è il pitbull terrier, ce ne sono tanti tipi di pitbull, e anche questo è un pitbull, capito? Questo American pitbull, quello lì è lo stesso un pitbull, capito? C'è scritto che addirittura questi cani qua li usano anche per fare terapia ai ragazzi autistici, bambini malati e cose del genere, figurati se non sono bravi. Solo che chi li addestra solitamente chi si riprende sempre o tossici o gente che spaccia per difenderli, capito? E li addestrano male. Il veterinario gli ha detto a questa amica mia di non farli giocare con le corde a tirare e cose, perché se no si abituano a morsicare. Di farli giocare con giochi normali, con pupazzetti, roba del genere, come si fanno a giocare gli altri cani, perché se tu gli addesti a tirare la camera d'aria, gliela appendi all'albero e loro devono andare a prenderla, così gli addesti a morsicare. E loro, questi delinquenti, gli addestano così, vi fanno morsicare le camere d'aria. Guarda che quei cani lì saltano i muri, camminano come il ragno sul muro, perché cazzo io li ho visti, è una cosa avvicinante, mentre li addestrano. Poi hanno fatto vedere anche quando sono addestrati per guardia, il ladro che scappa lo segue, lo butta in terra, vabbè c'ha le protezioni naturalmente, lo butta in terra e lo muove, non lo molla sino a quando arriva il padrone, te ne immagini. Già, guarda, ti ho mandato la foto di Filippo e l'altro l'altra foto, l'altro cane che c'ha 6 mesi, l'altro cane che c'ha 6 mesi di Mario, il pastore del Russia, no? del Caucaso, di Cibernese, adesso mi ricordo, guarda a vedere la differenza c'è, però Filippo c'ha 7 anni quasi, quello c'ha 6 mesi, a me ogni Agani, quanto è bello. È bellissimo, sì, un altro se ne ha preso Mario. Sì, guarda, lascia perdere, è sempre, e lui è amante di queste razze così, è amante di queste razze così, ma quello c'ha 6 mesi, tu lo vedi dal vivo, una cosa pazzesca, la parola le manca a quel cane, ma quanto è bello, ma bello veramente, vedi che non c'ha gli occhi ceretti come l'aschi. Però si assomiglia all'aschi, te lo stavo per dire, si assomiglia un po' all'aschi. Sì, molto bello. Molto molto bello, è costoso, sia un pazzo. Avanti Franco. Quelli sono belli cani, i lacchi a me piacciono più di tutti. E più di tutti, più del fattore terrestre mi piace, il lacchi. È un bel cane. Ma soffre qua perché c'è cane. Ma io l'ho visto qua, eppure sono tranquilli, cioè. All'estate magari soffre molto caldo e purtroppo come fanno a vivere allora qua? E qua si adattano a vivere perché nascono magari qua e si adattano al clima, però il cane come razza ha bisogno di posti freddi, sono nati posti freddi. Ma il tuo Claudio com'è, aggressivo adesso? Filippo? È abbastanza, ho dovuto mettere la retta nel cancello. perché non puoi passare che toglie sicuria. E taglio con gli altri cani più che altro, però devo stare attento anche con le persone adesso, perché l'altro giorno siamo andati, c'era l'inaugurazione della farmacia che c'era con Carlo, qua vicino a casa, e ci hanno invitato, siamo andati, c'era di tutto e di più, hanno preso le pizze, un sacco di roba. Vabbè, comunque c'era questa ragazza fuori, quanto è bello, l'ha carezzata e cose, con lui è stata tranquilla, poi si avvicina un'amica come lunga la mano, che la bricca di nato, non capisco il perché, si è posta male, forse come allungato la mano senza farsi odorare, l'amica si è fatta odorare, poi l'ha carezzato sotto, questa le ha messo la mano sopra, così. Si stava già, dicevo, il guinzaglio da destra, da destramento, quello lungo, ho fatto intervento per tirarlo. No, io uso il guinzaglio corto proprio per quello. Allora, ricordati sempre, quando qualcuno vuole toccare il cane, già lo sai meglio di me, perché sei documentato, non le farei mai toccare la testa. A me non la posso toccare, sì, ma non le toccare la testa, toccare la schiena, e lui si gira così e rimane un po' fermo. Ma se le tocchi la testa, un cane che non ti conosce, ti muscigheggia, lo so. Tipo quando io esco a guinzaglio, a Sassari, qua a casa, a Carbonazzi, devo stare sempre attento, perché lui capisce chi è che lo vuole bene e chi è che lo vuole male. Ci sono persone che iniziano a abbaiare, se non ce l'hai, ma abbaiare forte, con i denti fuori. E se non ce l'hai al guinzaglio, andare a muscigheggia, sei libero. Infatti non lo sciolgo mai qua. Non lo posso più sciogliere, neanche dentro il mio giardino, perché un giorno era dentro il giardino, qua a casa è uscito un signore dal portone, cazzo è fatto drugare la musica del pantalone, già mai cazzo bucato la coscia. L'ho subito preso, l'ho picchiato facendole capire che non doveva farlo, però continuavo a abbaiarlo a quest'uomo, e evidentemente io non mi ricordo, lo conosco ma non mi ricordo se gli ha fatto qualcosa, non lo so, però lui si accorge quando uno non lo può vedere. E beh, fra, visto le fotografie, vedo la differenza tra Filippo, tra il bulldog inglese e Guido. Guido va a 6 mesi però, È bello, quello lì. È bello. Filippo mi ha dato l'impressione di Maurizio Costanzo quando fa lo show. Sì, si assomiglia a Maurizio Costanzo. E parla anche così. Dai, sono belle. Bello quello di sotto, bello, bello. C'ha una bella estetica, bello stile. No, perché sia il mio, ma Filippo è un bel cane, ben tosto, ben piazzato, ben fatto. E no, è ciccia, chissà, ha visto mi ha detto che va posato, ma anche in piedi uno cammina, bello. C'era una manifestazione a Oristano sabato, e chi ci è andato? Ha tutto Levi, e ne vuoi andare, ha le mani in mezzo carriera, io non agio fuori strada. Infatti diciamo, andiamo con la macchina di un mio amico, no, ci vengo io a giornate così che non mi diverto, non me ne frega niente, infatti non ci è andato neanche lui. So c'era una bella manifestazione, proprio cani misti, bulldog inglesi, c'erano una gran parte di molossi, però c'erano anche pastori tedeschi, altri cani, detto no, resto a casa io, lascia aperto, cazzo viene ai 3 gradi, via, le mani tardi, andiamo a morire all'ombretto. Va bene, andiamo avanti, già riprendi. Ma sai che sto cercando una foto? È bello grosso, è il tuo, bello grosso. Quanto pesa adesso? Ma io, perché il veterinario non vuole, infatti il poverino la sera che ha sempre domandando, prima faceva 2 pasti, adesso fa un pasto solo da 250 grammi circa. Capito, mentre prima facevo intorno ai 180 pranzo, 180 cena, perché mangia solo crocchette di pesce, no di Eurospin, crocchette della Farminia, che me le portano sino a casa. Quindi stiamo cercando di tenere il peso, adesso ultimamente era intorno ai 28,5-29, però il suo peso ideale è intorno ai 27-26, capito, però... E devo sempre mangiare, già si muove, però infatti quando sto qua io sto sempre coricato nel lettino, vicino al termosifone, ma è una buccia in campagna, sta sempre correndo a destra e sinistra. Bello stesso già, è bello, rimane per lo liscio, sì, vabbè qua si vede coricato, la lingua fuori. Guarda, è metà la fantuzia, ho visto una cagna e... Te lo faccio vedere intero. E vabbè, quello di Gianni è un rosso, però è un altro tipo di razza. Rimane più... un cane più... più snello, capito? Infatti sono pesa che pesi, mi pare pesi 20, quanto pesa? 18 il tuo. Quindi poi proprio di costituzione, anche perché è un fuori Italia, fra, capito? E quindi è nato gigante, infatti la sassa non ce n'è di questa dimensione, ce n'è bulldog inglesi, ma non sono così maschi, sono molto più bassi. Sì, anche il mio però corto, fra, così, stesso pelo di quello, più o meno i morossi sono tutti così, con lo stesso pelo, poi cambia colore, anche il mio è marrone e bianco, come quello di Gianni, capito? Sono tutti e due la stessa casa madre, molossi, capito? C'hanno il cervello vicino al naso, però il suo è un, uno shu, come si chiama, no, già, ma non me ricordo. Sharpie cinese. È uno sharpie cinese, sì, però appartengono sempre alla categoria dei molossi, fra, capito? Certo. Sì, ho visto che anche il tuo è però corto e liscio. No, sono belli così, non quelli tutti pelosi, i lisci non li biardano. Sì, oltre, vabbè, i cani li perdono tutti i piedi, ma quelli ti lasciano la lana per terra. Fra, liscio lungo o corto, il cane lo perde, anche Filippo cosa pesci. Noi non siamo qua a casa, aspira polvere, cioè il prodotto che mette nel, per lavare per terra, proprio per il coso dei cani, e un sacco di soldi ci vuole, un sacco di soldi, un sacco da 23 cucchini, 55 euro costa di mangime per il cane mio, è la stessa cosa per quello di Gianni. Più due volte alla settimana, carne di pollo, fegattini, e quello e quell'altro, è costoso, fra, è costoso, è un gatto il mio, è un gatto a casa, in appartamento è un gatto, in campagna Edo diventa un rinoceronte, non c'è niente da fare. Certo. Questo è alto anche già, è molto alto. E taglia media, là, taglia media. No, cioè, beh. Adesso però ti faccio vedere le cavette che mi sono date il giorno della Befana. Ehi. Questo è bello come cane. È un bel cagnolino. Anche se sembra più cagnolone adesso, sembra. Avanti qua. Ehi, le cavie. Ma che è partorito? Secondo fatto. Hanno fatto 5 figli. Il giorno della Befana sono nato. E quindi adesso sei allevatore di cavie. Le sto vendendo, dai, le vendo, le... ma che cosa te la fai, che io vado a fondare. A me manco nonno mi ha fatto diventare Filippo, che non ce n'è. Due lo voleva, non so dove, mi porti il cane, lo faccio saltare, ma non ti porto il cane, lo faccio saltare. Guardi che buttando un pupazzo di pratica, o qualche cosa di, come ti diciamo, gli si buffi, no, no. La porti qua, se vuoi, no, ma io sa, non la posso lasciare, tu non me la puoi lasciare, la femmina, io secondo te ti lascio il maschio. A parte il fatto che Filippo, se non ci sono io, ti disintegri già la gaggia, ma se non ti ammatti a buva femmina, capito? Quindi no, lascia perdere. E perciò non l'ho fatto ancora saltare io, ho fra. Cioè 6 anni e mezzo, quasi 7, però non l'ho fatto ancora saltare. Ogni tanto si fa qualche pippa e già le passa. Sì, vabbè, però se c'hai l'occasione conviene portarlo. Perché loro hanno bisogno delle cose sue, non solo delle pizze. Ho capito, ma come faccio a dargli un cane che se non ci sono io non mangia neanche? Ma stai scherzando, se non ci siamo io, mia moglie e mia figlia, o detto, mia figlia non fa nulla, ma non sai quanto diventa triste. A volte quando io esco, sta dietro la porta a testa bassa, come ti dici chi si offende, dimmi, dietro la porta, e tu lo chiami e non si muove la liscia, quando rientro io, come fai a... E poi da giù buttare un cane a Oristano e tiro bene una ghetta a farlo saltare, e io senza cane, no, senza sapere cosa mangia, cosa non mangia, mi sciammare al cane, ma stai scherzando, fra, No, no, qua a Sassari non ce n'è. Che lui possa saltare le cagne, le bulldog femmina che ci sono a Sassari non ce la fa, perché le passano sotto. Ho detto è alto il mio, non pensare sia basso, è seduto, ma è alto. I bulldog femmina che ci sono di razza normale sono molto bassi, le passano di sotto. Hai visto il mio, le gambe, le zampe che c'ha? Quegli altri c'hanno le zampe, pare di ghisigani, come si chiama, bassotti. Vabbè, però anche loro hanno bisogno. Non come voi visto, che hanno cane e fanno le cappate a Tegani, alle biate hanno sterilizzati, aiuto, che vergogna. No, io non devo sterilizzare niente, perché ho detto va bene così, sono cani che non è che soffrono molto la pubertà, capito, non è la fottinuta. Però se si poteva fare l'avrei fatto, ho capito, l'avrei fatto. Però no, non si può fare. La sorella di Filippo ha partorito, ne ha fatto 6, ma uno più bello dell'altro. Ha levato te, Claudio? No, già. Ah, ecco, adesso mi ha levato. Io la mattina quando vado a portare la taglia laggiù e faccio l'erba. Poi vabbè, do il fieno, mangime, anche quelli in casa sono costa di più del cane, tenere le capi. Tra mangime, che costa 17 euro, ce ne sono 500 grammi. 17 euro, poi che sono tipo crocchette rimane, tipo pellet rimane, la forma. Poi c'è la cosa, la segatura per mettere nel fondo, in più la paglia per mettere nel giaciglio dove lo si coricano, in più c'è il fieno da mettere, in più peperoni, tutta la roba che devi comprare, la tura, eccetera eccetera. Poi gli altri ci un conto. Ma la buona rucola li dai? Tutto li do. La rucola li do, finocchietti, tutto quello che trovo, anche ravaletti selvatici. La roba, quella lì è la roba che preferisco. Quell'erba coda di cavallo, quella lunga. Ma lì, cavolo, tu devi vedere come se la metto in bocca, la tirano tutta quanta, se la metto tutto il filo, si mette lungo, se lo metto tutto lento. Già lo so. Ma di nuovo piovendo sta. Mi si è alzato. Oh. E già non mi ha visto, mi si è alzato lo guerre, mi ha mille. Ma già, ma lo so, quelle case che avevi mandato a me una volta. Sì. E quelle, a cosa servono quelle? Tipo di animali solo? Sono dei roditori, sono a mangiare erbivori. Sono come i conigli, dai. Quelle lì le usano per fare gli esperimenti, per danni medicinali da prendere, per vedere se fanno male all'uomo, capito? Li usano, infatti si chiamano cavie per quello. E praticamente in Perù vivono all'aperto, capito? Sono animali che vivono selvaticamente anche. In Perù ci sono le cavie peruviane, e appunto si chiamano peruviane perché vivono in Perù. Sono quelle a pelo lungo, poi ci sono i porcellini d'India che sono quelli a pelo corto. Vai lì a tenere quegli animaletti lì, aspetta, ci vuole posto, gabbie e soldi a spendere per dargli da mangiare. Più che altro ci vogliono soldi, perché il posto ce l'ho, c'è la veranda chiusa, io li metto in veranda, loro stanno lì, non disturbano dentro casa né niente, solo quando c'è freddo li metto dentro, la sera li metto dentro e basta, poi tutto il giorno stanno fuori in veranda e quando sono piccoli per non farli prendere freddo li tengo dentro casa, ma i soldi che devi spendere, perché io li compro, allora loro hanno bisogno dei peperoni, perché devono mangiare peperoni rossi, non quelli gialli ma quelli rossi, perché contengono vitamina C, loro non producono la vitamina C, quindi o li dai quelli o li devi mettere il cibo a gocce nell'acqua, però il cibo sai cos'è, che perde il coso, la vitamina la perde dopo un po', capito? Se non lo bevono subito non fa più effetto, l'effetto lo perdono subito. Invece con i peperoni, mangiare i peperoni gli dà la vitamina C, poi gli do anche mandarini, arance, quello che può dare la vitamina C, citriuli, tutti i giorni devi mettere citriuli, che sono aromatici, prima li fa diventare bianchi, ci mangia tutta la buccia, dopo ci mangia il cucuma. Ma i peperoni però sono quelli rossi ma dolci, quelli dolci però, non quelli che friggono. Quelli dolci, peperoni, sì, quelli dolci, quelli grandi che mangiamo, quelli lì, quando sono fuori stagione, quelli costano un 3 euro, 4 euro, 3,90 euro, e già si spende, però ti danno un po' di soddisfazione. Lo sai che quando mi vedono mi fischiano, fanno... quando mi vedono, subito mi vengono incontro, sono troppo pigli. Dovrebbe essere belli, se sono così, vabbè, aspetta, io, cioè, sono, tipo un coniglio, dai, lo allevi tipo un coniglio, dentro una gabbia, e metterli sempre in asciutto. Sì, c'ha sempre la segatura, ma non segatura di falegnameria, ma segatura tolte le polveri, perché loro la polvere della segatura li fa ammalare all'apparato respiratorio, se non ho capito. Sì, già mi sono documentato prima di averli, li ho avuti già 3 volte, però poi mia moglie me li aveva fatti vendere perché c'è che sporcavano troppo. Quando ci sono 9 di mezzo non puoi fare male, davvero posso fare. Devono essere belli, se c'è troppo già va bene, avanti clan. Sono anche masuetti e non morsicano, si fanno prendere in braccio e tutto. Oh, davvero? Non scappano niente? No, non si fanno accarezzare, se tu lo metti sul tavolo resta fermo, si fa accarezzare con la testa alta in alto così quando la accarezzi, come per coccolarsi, né? E poi fa cru, cru, cru, cru, come può fare il gatto quando fa rifusa, te ne vai. È una cosa allucinante, e poi diventano anche belli grandi, non è che crescono, tu pensa che nascono con gli occhi aperti col pelo e il giorno dopo stanno già mangiando la terra. Che aspetta? E quanto fanno grandi? Non ti posso dire. Quanto un topo di fogna ce l'ha presente quanto può essere grandi, quelli grandi così. Cavolo, ce ne sono che sono fatto il gatto. Esagerato, quelli sono a Napoli perché mangiano per i mondetti. Mangiano napoletani. Non la bufola, una volta c'era scritto sul giornale che quest'uomo che viveva solo a Napoli era stato morsicato dai tupi di fogna e lo stavano, ma ce lo stavano mangiando vivo. Beh, specialmente quel barbuto, quella gente lì, che Napoli è famosa come tuppi, per la miseria. Un anno, quando ero militare, mi sono andato lì a Napoli per fare la prelievo del sangue, siamo andati a fare a Napoli la nocera inferiore, e siamo passati in una via che altre mira di e quella di Cavina attaccata al muro giù, ma guarda e sui gatti che ci sono, no, quelli sono tutti felici. I gatti scappano. Che bello, perché lì c'è una mezza montagna, è una cosa allucinante. Claudio, senti tu zitto, parcheggio sì. Ma state parlando voi? Siete già una vita giuro che già. A proposito, tante salute, approfitto di giuro che tante salute da Antonio. Siamo visti che la tempestiva un altro collega e mi ha invitato al ricevimento di Accanica, ha fatto un rinfresco di Accanica, un depuratore nuovo là. Per Antonio a vedere quello che si è sollevato dritto a Canica proprio, no? Ma dritto si è sollevato, varia un canguro mio, offra a prendere una canaletta di una strumentazione, di un quadro elettrico, era 30 allungato, ma a mano, aveva la gola a minimo era 30 cm, grande, come ha tolto la canaletta Antonio, si è sollevato dritto, moriva un canguro, ha detto, ma lo mi, allora se si è bideggia, è saltato, siamo spostati, è saltato in terra ed è scappato, ma Gianni già ne ha visto tutto il depuratore. La notte quando facevamo il giro con la pila io ci andavo quasi ogni sera a visitare tutto, quando era di notte andavo a fare i compagni. Pietro, quando c'era Antonio, e poi c'era altra gente, ogni tanto venivano anche loro, ci facevano quattro risate. Abbiamo passato. Comunque una cavia peruviana, dove l'ho letto da poco, stavo guardando un coso, sì, mi è capitato, ah no, guarda che c'è, no, anch'io l'ho fatto vedere. Praticamente diventa grande più o meno fra quanto un gattino, sai, il gattino appena nato, dopo quando il gattino inizia a aprire gli occhi, che inizia a camminare da solo, eccetera, più o meno così, sono molto belli, ecco, le Gianni sono belli, bello quel filmato, la gente non può vedere l'aria, anche lì c'è attenzione, ho detto, hai forza, però una goccia, guardo sempre i fatti tuoi, tranquilla, serena, che sei stabile in campagna, allora vuoi avere tutti i sette biazzi, anche il cavallo, capito, anche il cavallo, perché mia nipote c'è un cavallo, al maneggio di Porrottore c'era Gianni Falchi, capito, la figlia di mio fratello già ci ha comprato un cavallo, quindi ci ha fatto la foto del cavallo, le sale sopra, si avvicina e fa, capito, quindi Beate Lugavato ha detto, vaggi lo botteggio la macchina carbonata, lo vai a rubare, lo danno in chi vi Lugavato. Però dopo di Antonio la Falchi. E Gianni Falchi è mio cugino al primo grado, il Salvatore è morto, quello lì a Ponte Romano, ha tenuto dei cavalli, quello è il fratello di mamma. Ah, Gianni è l'alfantino, il fratello, allora, di Antonella, quello che faceva l'alfantino in Francia. Esatto, quello alto, lì c'è la Laura, la figlia di mio fratello, c'è il cavallo, ce l'ha lì. Ce ne sono un bel di cavalli lì, l'avevo portato anche a Marcolino quando era piccolo, avevo fatto le fotografie, i cavalli, ci sono le capre, quelle capre particolari, non mi ricordo che cosa siano, di che paesi siano, però sono bebelline, rimangono proprio belle, perfette come capre, però hanno il pelo lungo. Sono capre, non mi viene il nome. Guarda, li ho visti anche da poco, però neanche io so come si chiama. Prima, quando ero di Salvatore, c'erano i cavalli che correvano al Palio di Siena. Dudinà va via. Gianni ha lasciato Gianni, Poi lui ha mollato un po', perché poi si è laureato in veterinaria e quindi sta facendo il veterinario. Quindi un po' mollato, però c'era sempre i cavalli, c'era bestiame eccetera, è sempre in giro con Giovanni Maria, con Carbone, insomma i miei cavalli, pare che io vado, grazie sempre in pari, l'altro veterinario che c'è il produttore già lo conosce, e vabbè, comunque, gli animali sono belli fra, però ci vuole spazio. Un cane, un cagnolino, vedi così, animali come c'è Gianni, va anche bene in appartamento, però non ti puoi sbilanciare, perché poi, capito, succede casino, fortunatamente il mio non abbaia, non disturba, non fa, ma c'è uno che non rompe palle, gli ha già fatto la lettera due volte l'amministratore, questo cane che sta tutto il giorno abbaiando, lo lascia nel poggiolo e sta tutto il giorno abbaiando, certo vi buttare di un buongiorno. Invece oggi mi ha guardato ancora con un cane, che il cane è sempre a casa con il robogiolo, cazzo. Ma lì metti se non può fare una cosa del genere, cazzo, riprendi fra. Che bisogno dovrei fare? Guarda, non lo so. Io penso che li faccia lì, perché io ti giuro già, guarda, io a Sassari tre volte al giorno con Filippo, tre volte al giorno. E sto anche molto giù, mi metto a parlare con i vicini di casa, eccetera, e c'ho sempre il cane a guinzaglio. Io vedo, non l'ha la Giuseppe Vito la Giura senza cani, però Rugani abbagende lo buongiorno. E uno vicino a casa, lo stesso, da quando scende a quando si leva, sta sempre abbaiando. Abbaia tutti i cani, la gente, a tutti abbaia. Cioè, sempre lui sì. E infatti pensavo il coglione l'altro giorno, ho detto, ma gli sono cani, cazzo, ma ti non puoi cagliare a muto, dalle sei di mangiare una fra di abbagente, tu la reghi chizzo, tu la gente, tu me. E lui c'è di scelta, così l'ha detto che stava con io. E lui dice, te cosa devo fare? Già di bongo, me lasci cubano la magia, non dovevi abituare da prima. Il teso per dire non abbaia, è pure furbo, capito? Se sente gente, si avvicina alla porta, così, no? Però non abbaia, capito? Come apre la porta, mi oggi. è venuto a farmi visita a Tole Barra Agricola oggi verso l'ora di pranzo e se l'ha ringhiato, ho detto mica un amico, lascialo stare. E Tole, ma mio, questo è un cane mursica, no mursica, già è tranquillo, e bombolai devo stare attento perché bombolai non li pupi dentro. Uguale, precisi detti, questo sta prendendo punteggio Mario, che a me porta la bombola Mario, no? Quello lì in via Pascoli, ma la porta qua. Il primo periodo niente da fare, farà pigliarti la bombola, ma poi iniziata, io inizio a salire, se tu non ti fai vedere, no? Allora saliva, come aprivo la porta, gli si attaccava i beri. Che Dio fa a Gaggi? Adesso invece piano piano quando lo vede, ciao Filippo, vabbè, agita che appoggi la bombola, agita. Perché lui non so se teme la bombola o lo gioco. Allora quando appoggi la bombola salta sopra e un po' lo gioca. Poi io lo chiamo, stai fermo, io che devo entrare. Allora lo molla, ma il primo periodo non lo faceva entrare. No, no, anche Filippo non abbaia. Se suona o si avvicina alla porta e ti aspetta a vedere chi sei, capito? Però non abbaia, questo invece abbaia sempre. Che suonano la porta, che ci sia gente, che non ci sia gente, è un rompimento di balle, capito? Infatti l'amministratore l'ha già richiamato a sacco di volte. Quindi bisogna che stia attento, perché la legge condominiale prevede che il cane deve avere un certo comportamento in condominio, diversamente non si può tenere. Avanti, fra. Fai come ti dai butto? Che ti dai butto dal buongiorno? No, siamo andati a portare una spesa a questa signora, buongiorno. E il cane abbaiava ma non riusciva il suono, capito? Faceva solo con la bocca così, ha detto ma c'è questo cane, è stato operato. Come operato? Cosa ha avuto? Tumore? No, l'ho dovuto togliere le corde vocali perché nel condominio mi hanno fatto casino, mi hanno messo l'avvocato, questa e quella, che siccome era affezionata per non mollarlo gli ho fatto togliere le corde vocali. Gli ho detto lei ha fatto un atto indegno, mi dispiace dirglielo, però ha fatto una cosa, guarda, non va a mangiare. No, è meglio che non mi dicevi niente, si sente l'aria, la denuncia già subito, animalista come te, chissà, poi è, e c'è scritto anche da poco alla cosa degli animali, infatti l'altro giorno c'è, guarda c'è trovi che stanno dando dei cuccioli di cose, come si chiama quella, ma, io volevo dire fretta, hai ragione, mi sto rincoglionendo, Labrador, cuccio di Labrador, lei è purissima, pura, c'è anche le pedigree, però purtroppo l'ha saltata un cane da caccia, c'è anche il cane, un setter, cazzo, ma gli ho detto, cosa amici? No, ma detto, guarda, le orecchie sono di Labrador, non c'è niente del padre, ma gli ho detto, mandami la foto, qua non me le ha mandate, a ver se riesco a venderli, avanti fra. A regalarli? Chi a regalarli, a tirare fuori le spese per la lida, capito, non... io già vi ho dato 50 euro, te, loro li mettono per comprare soprattutto il mangiare dove c'hanno il canile. 400 cani c'ha la Lidami, non sanno più a che parte girarsi, Gianni. Lo so. Guarda, io se avessi avuto una campagna, un terreno, gli animali ne avrei avuto parecchi, perché a me piacciono tanto. Mi avrei fatto una voliera con tutti gli uccelli, mi sarebbe piaciuta. Con un albero piantato al centro, e poi la voliera grande, e avrei messo un po' di tutto. Cardellini, canarini, verdoni, proprio uccelli normali, non diamantini, quelli no, avrei messo uccelli proprio quelli che ci sono, che volano anche normalmente, da cardellini, verdoni, tutti questi uccelli qua. E poi mi avrei messo anche galline, queste cose qui, a me mi piacciono gli animali, però non c'è il posto per tenerli, non ho molto posto, capito? Se no, per me, io le cambio, le pettino ogni mattina, stamattina ti ho tagliato anche le unghie, le vogliono curarti, non ti credere che sia, le unghie le crescono, se tu non gli tagli le punte, ti graffiano anche come di prima. Avanti, fra. Stavo agganciando l'altro TMR per vedere chi c'era, ma non c'era nessuno. È bello già, è bello avendo un pezzo di terreno in giro, avere cani, avere anche altri tipi di animali, è bello, è molto bello, però ci vuole terreno. E poi Claudio, ricordati che quella legge non è solo condominiale, è anche qua, anche se siamo case un po' sparse, e ti dico che se abbaia al cane lo devi fare di tutto a farlo stare zitto, perché se disturba in certe ore intervengono i carabinieri e ti obbligano a farlo stare zitto oppure a portarlo da qualche altra parte. Ma io ho letto anche che c'è stato un processo perché questo cane ammaiava, hanno fatto un processo e ha vinto la padrona del cane, perché dice, il giudice ha detto che il modo di parlare del cane è come se noi parlassimo, il fatto che lui abbai, quindi non è condannabile perché è il suo modo di esprimersi, ma abbaiare, quindi non ha accettato la denuncia dei condomini. Sì, va bene che anche il cane parla così, però in certe ore non è che può stare a voce di notte. Allora, nel nostro condominio hanno scritto, si pregano i signori condomini che sono in possesso di cani o altri animali di cercare di farli star zitti nelle ore di riposo, eccetera, eccetera. Perché ci sono state delle lamentele, ma non, certo non riguarda me, riguarda un'altra che ha un pincher che sta sempre abbaiando, lo lascia solo perché poi va a lavorare, lo lascia solo, anche io a caso dico la verità, quando vado a lavoro lui è solo in casa, però si sa comportare, lui in casa sta tranquillo, va in terrazzo, guarda la gente che passa e cose, non fa casino di nulla, capito? Quando torno mi brinca e nato, lui ne fa poche difese, si mette perché fanno le feste, purtroppo sono così gli animali. Riprendi qua. Sto cercando un video. Lo faccio dico già in campagna, in questo video che abbiamo fatto d'estate. Ma già non ti viene, tutti gli ci sono arrivati. Ma già non ti viene un bel. La casa io l'ho vista, ma l'ho fatta vedere tutta una volta, mi ha mandato tutto il filmato con la piscina, tutto l'altro, me l'ha fatta vedere tutta. L'ho vista proprio da vicino. No, ma già te lo mando questo, perché ci sono due cani accuditi, due cani, si chiamano Bassotto e Bassottino, io e Giamma Gaetano, Otto e Tino, ti mando quel filmato, lo sai quanto è bello, ma sai i gatti che ci sono, piccolini, tu dici animali non c'è, ma in campagna vengono da soli, questi due cani che sono due incroci di Bassotti, una cosa del genere, sono due fratelli, due maschi. Ma lo sai quanto sono belli? Belli, ma lucidi, grassi, belli, mangiano tre volte alla settimana. Tre volte alla settimana che si va lì a portarli da mangiare. E poi c'è il vicino che va a mangiare tutti i giorni, capito? Ma tu devi vedere quanto sono belli e quanto sono intelligenti, nel senso che tu qualsiasi cosa dici loro fanno. Siediti, stai fermo, non saltare, non ti muovi, non vanno a stanno assieme ai gatti, capito? Vivono assieme ai gatti. Quindi se uno c'è a posto, tornando al discorso di prima, gli animali, anche se non ce li hai tu, tuo personale, ma vengono, perché i gatti soprattutto quando vai a mangiare, stanno sempre lì, e stanno sempre lì tutti sotto la veranda, tutti sotto la veranda, ma è pieno di gatti, belli. E in campagna poi servono, perché ci sono sempre i tupurini di campagna, quindi i gatti, quelli selvatici specialmente, li danno la caccia. Non so, non ne hanno mai portato, forse qualche uno così, di quelli piccoli di campagna, però sono belli perché fanno anche compagnia, capito? Sono una figlia che mi è lontano, va bene. Va bene, fra, siamo qua. Lo so, perché anche Antonio, tu lo sai benissimo, con Antonio mi conosco da bambino, da ragazzino. Io in campagna di Antonio ci ho frequentato tantissimo, Antonio c'è una campagna che ha 7 ettari di oliveto solo, tra vigneto, oliveto, non so quanti ettari sono, ma è grande. E noi ce li avevamo i gatti, una volta a una festa, questo amico mio gli ha zuppato il bagno e il il coso del vino, il pane del vino, e l'ho dato a questo gatto, lo adorava e non lo mangiava, però alla fine ha provato a gustarlo, gli è piaciuto e comincia a mangiarlo, e ne beve un altro, glielo dà, alla fine il gatto marcollata. È chiaro che la tontoneggia. No, no, no, questi mangiano di tutto, capito? Tutti, ogni lunedì si prepara un bel pentolone di pasta con la carne che ci hanno lì al mercato, tutti gli avanzi di carne, si taglia tutto a pezzettini e mangiano sia i gatti che i cani, sia i gatti che i cani, capito? Per dire, cioè se uno c'ha posto, non è detto che... E quando porta Filippo lì, oh, ma Marco guardate il cavolo in basso, gli do una batte, gli date su all'altra, no, non ne frega niente. È proprio, si è già inserito, capito? Si è già inserito. E io, vabbè, già, un sacco di cose da fare ci sono, non è così, no. Un po' ce n'è ancora, si cerca di andare, però, vi lascio finiti, vedi che finiti. Pochi ne sono rimasti. Allora, con come? Venga un piano, via Luca. Adesso, vabbè. Vabbè, Lucrezia. Pensa te la Claudia che è morta. No. Spinangelo. Non stai uscendo di là. Adesso, prova. Adesso sì. Boh, questo microfono. È copiato che è morto. Sì, ci sbagliamo, lo sposo dopo che lo compro a casa. Meglio. Così me lo compro bene, devo adesso. E beh, già. Tu, basso basso mi arrivi, cazzo, mi arrivavi bene prima, boh. Non gente c'è nulla, cosa hai detto? Ecco già voi, in cuffia. Lo so. Però arrivavi meglio prima con l'antenna dentro casa che con quella fuori. Guarda adesso, prova. Adesso sì, adesso ti sento bene. Però non si sente il radio, io sì, Santiago 7, prima di Santiago 3. Tappato, prova. Sì, adesso sì. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Più basso sì. Microfono entra. Basso di radio. Già, tu lo senti che ce l'hai vicino, ma qua mi arriva Santiago 3, poi ha toccato qualcosa, mi è arrivato Santiago 7, però la radio è bassa. Guarda adesso. Adesso sì, Santiago 7. No, la radio. La radio va bene. Te lo sto strappando. No, negativo. Ma ci deve essere qualche filo interrotto, perché se lo sposto normale, come lo metto sempre, non esce. Tu pone l'oro il contrario. No, taglio e salto di nuovo già. Ma tu sei scelto all'interno del microfono che sia lì. Il microfono è quello dell'MB40 class, ma già. MB40, il microfono che c'ha lo pidao. Ho capito, però magari riprende dal filo a furia di tirarlo e si sente rotto lì. No, tu dici che c'è dall'interno del microfono. Il connettore l'ho rifatto, il filo a produrre lo sta a nuovo. Ma sicuramente sono del microfono, c'è un'opzione, io l'ho rifatto a nuovo. Senti? Ho detto, mi senti, ti sei alzato di radio. Ho detto che lo spinato l'ho rifatto a nuovo, adesso lo devo rifare nel microfono. Ehi, ehi. Prova a vedere che c'è quello, se no c'è da sostituire il cavo del microfono. E tu già riposo oggi? No, se no di nuovo col piede così. Ah, sempre quel problema là. Ci siamo visti con Carletto l'altro giorno, gli ho lasciato la zuppa di pesce perché me l'ha chiesta e mi ha ringraziato, bella, e gliel'ho lasciata, bella viva ancora. E doveva fare un regalo, gli ho lasciato la zuppa. Calda, perché non le procura lui zuppa là? Ma non la prende viva, cioè col pesce vivo, no. Ah, ho capito, via. Andava avanti là. Te l'ha detto Gianni? Cosa? Ah, Luca, si è accoppiato poco fa quello che gli hai detto. Sì, ma non ha fatto una grinza, deve essere una fottiuta. E di che corri qui? È morto Pinangelo. Ti ho risposto, non so, ma l'ha detto Claudio, sei tu che non l'hai sentito, Tanto mi dispiace. No, non ti ho sentito. Vabbè, pazienza. Ragazzi, ci siamo fatti ridere poco con la puntata del fuoco, te lo dico così. Lo stavo raccontando a Claudio dalla sua capelli, sì. C'è una l'abbiamo raccontato con la moglie, poverina, è distrutta vita. È mancato il perno, è mancato il perno, anche perché non solo scherzava, rideva con tutti, ma era così sempre a casa tutti i santi giorni, illuminava tutti i rigurori. Tu immaginati che un giorno mi stava raccontando la vita e ho detto, tu immaginati cosa ha fatto, siccome la mattina si è alzato e era tutto zoppo, gli ho detto, vedrai che prima o poi te ne attagliamo quella gamba se non vai a controllarti, perché non ci andava a controllare, si era ridotto. Oh, e tu hai già vado, dove stai andando? Già torno subito, è andato dietro, dove c'è il coso, dove c'è il garage, dietro dall'altra parte. Ha pigliato due stampelli, ho già, si ha pigliato rubini, si ha posto un coso della stampella, è entrato dal radretto. Basta, mi ha detto qua, le lacrime me le faceva scendere. Perché poi alla fine è anche strappato perché non ce la faceva, manca che me ne con la stampella. Oh, ma questo problema del pene ce l'aveva tanto. Il fuoco di Sant'Antonio, lui diceva, non la rompa, il fuoco di Sant'Antonio. Sì, il fuoco di Sant'Antonio sembra che se l'aveva curato, ma poi è appeggiorato. Appeggiorato, c'era qualcosa nella pianta del piede. La pianta del piede sotto, perché poi gli si è gonfiato tutto, è diventato tutto nero, cioè era trasandato, ma non era fottia nuda, capito? Se lui andava e faceva le cose come doveva fare, ma questo era ancora vivo. È andato in cancrena? Guarda, in cancrena no, ma comunque da lì è partito l'embolo, è partita la trombosi, quindi è stata diagnosticata da lì poi. Non c'è come ti giovi medici, no? Uno si picca e l'altro si curi. Mia sorella se l'ha scappata proprio perché era all'ospedale, non stava bene, stavano andando a fare delle analisi ed è venuto un trombo all'ospedale, hanno fatto in tempo a portarla, è stata in coma un giorno, poi si è ripresa, per fortuna. Io quando sono stato, stavo leggendo un contattore abbassato perché la nicchia era a 10 cm dall'asfalto, che mi sono alzato, non ci ho visto più, mi è venuto questo capogiro, sai, distinto, chiudi gli occhi un po' così, ho aperto gli occhi e vedevo solo un occhio. E il mio collega mi ha detto, cazzo, c'hai tutto un occhio rosso, pieno di sangue. E quando sono arrivato al pronto soccorso l'oculistica dice che era una trombosi, e invece era un'emorragia oculare, quindi bisogna stare attenti già, bisogna stare attenti. Poi vedo la stressata, mi ha raccontato la moglie, stressata, ogni mattina lo stesso problema, devo andare ad aprire il circolo cazzo a Nicola, devo andare a fare la spesa, devo andare qui, devo andare là, ma molla, loro diceva, si arrangia lui invece di alzarsi alle 10 del mattino, se ne alza presto, l'attività è la sua, cioè guarda, era stressato a morte. Quindi anche da lì non aveva voglia di andare a curarsi, di fare un casino, incazzata nera la moglie, va, perché l'ha voluto lui. Un po' trasandatela magari, ovvia. Vabbè, dai. Ce lo ricordiamo scherzoso, simpatico, com'era. Mi è dispiaciuto che poi ultimamente non stava più entrando, però, perché c'aveva un'antenna difettosa, non so cosa c'aveva, però quando entrava si faceva pisciare dalle risate. Gli ho staccata l'antenna, te l'ho detto, staccata, l'abbiamo abbassata con due di Alghero, quando era arrivato di Alghero, abbassata, tolta, staccato tutto, no? Tutto, portato via tutto, e questa è la radio Shuami, questa che sto usando io, la mia l'ho venduta ad uno che tra l'altro conosci bene, però l'ha portata da un'altra parte, che non serviva qua a Sassi, serviva da un'altra parte, capito? Io mi sono tenuto la sua proprio perché voglio che rimanga qua perché l'avevo fatta avere io, l'avevo venduto il 140 a Daniele e si aveva preso il 440 mio, quindi è tornato a casa e questo non ha valore, assolutamente, non ha valore, come c'ho la radio di Torellai, che è lo stesso, non ha valore. Nel modo più assoluto rimane lì, c'ho la radio di Carlo Titano, c'ho la radio di Giampaolo, quelle cose lì rimangono qua a vita naturale durante, non usciranno mai di casa. E di Giampaolo che radio c'hai? C'ho il VU. Ah, quello che usava lui, sì. Pure Giampaolo, che poveraccio. Ah, lui, era fatta pure la vita. E vabbè, anche lì c'è un discorso particolare, poverino. Sono cose che bisogna meglio lasciar perdere. Vabbè, ok. Con quella di Carlo lo stesso, c'ho un portatile della ICOM UHF, un portatile della ICO che usava lui lo stesso, cose piccoline, dai. Di prove c'ho lo stesso un bibanda, però quelle base non si toccano standard. Tu figurati che io ho la radio base VHF, UHF, di uno dei primi radioamatori di Porto Torres, che si chiamava Giancarlo Baffigo. Baffigo non mi viene il cognome, l'ho già sentito. Poi c'era Scaramella. Giancarlo Baffigo è quello che aveva il negozio in piazza, in corso Vittorio Emanuele, di armi. Sì, ho capito. Ma che picata ne siamo capite. Allora, questa radio, io ti faccio la foto, se tu la vedi sembra un base della 27, invece è uno standard VHF base. C'ha la manopola per cambiare i canali ed è quarzato a quarzi. Una cosa così bella, l'ha vista anche Stefano, molto molto bella. Quella era di Giancarlo Baffigo, ed è datata 1975, fatti il conto. Per dire, io le cose ci tengo, è sempre qua, sempre, non si muove. Così tre portatili ce li ho in vista, quella lì ce l'ho in vista, e la radio di Pinangelo è questa che sto trasmettendo, è a fianco al 430. Non si tocca, te l'ho promesso, assolutamente. Mentre l'errore che avevo fatto, perché mi avevano convinto, io ho avuto anche la radio quando è morto di Angelo Plifo, quello di Alghero, e poi l'avevo venduta dopo tanti anni e me ne sono pentito. Ma questa non uscirà mai, mai e poi mai da qua. Io ho sempre le stesse di radio, non ne ho cambiato nemmeno una, non ho intenzione nemmeno di cambiarne, anche perché ho visto che era tutto fermo, tutto bloccato, c'è poca gente che entra, cosa stai a spendere su di altre cose, se no già me l'avrei comprato qualche altro apparecchio, già lo sai. Ma comunque si stavano lamentando tutti delle S9, che praticamente in quell'app che hanno fatto, stavano lamentando l'S9 perché c'ha difetti al frequenzimetro, che cammina da solo, eccetera eccetera. Adesso l'hanno spedito, ma dice che ha trovato per caso questo qui su internet il frequenzimetro, perché se no dall'America non ne mandano, sono gelosi, non te ne fanno aggiustare qua. Gio Maria, la stessa cosa, se mai l'ha comprata nuova in un paio di mesi. Prima ha iniziato a lampeggiare, poi si è trovato tutto il frequenzimetro. La radio funziona ma non c'è frequenzimetro. È un difetto purtroppo che c'è, se no io l'ho avuto, però non l'ho avuto per molto, la verità, anche perché il mio era modificato e l'avevo venduto. Però ha quel problema, perlomeno, anch'io ho sentito così, poi magari capita, il tuo non lo fa, quello non lo fa, però capitano delle serie che lo fanno, capito? Vediamo se è arrivato Franco. Fra, ci sei? Sì. Come? Se non ve ha quel difetto lì, come mai? La prima serie è nata così, sicuramente, perché io, vabbè, no, con le S9 a me non ne ho mai fatto difetto. Poi ho preso il 980 e non me l'ho fatto difetto. L'ha fatto a chi l'ho venduto, l'ha fatto dopo un po' di mesi, gli ha fatto quel difetto lì. Però io a me non me ne ho mai fatto, dico la verità. Abbiamo provato in tutti i modi, cercare di spedirlo, di farlo, nessuno praticamente è in grado di avere questo pezzo. L'abbiamo chiesto anche a Vittorio se riusciva a ordinarlo da internet, niente da fare, non c'è, non ci sono frequenzimetri nel nome dell'S9. Che cavolo, non è vecchio l'S9, l'S9 è uscito con fuori produzione, no, non fuori produzione, non ne hanno più fatto per altri motivi sicuramente, ma se no è da poco, è nel 2018 che non li hanno fatto più. Ma io ho preso il 980 per prendermi il sicuro, invece ho preso il 980, anzi no, per prendermi, mi piaceva di più, 980 è più potente, ecco. Ce l'ho di qua, tranquillo, va benissimo, non ha mai fatto difetti di niente, tranquillo. E magari era la serie che è uscita così, non lo so, con questo difetto. Però ripeto, io l'ho avuto, a me non me l'ha mai fatto, poi l'ho venduto e purtroppo l'ha fatta chi l'ho venduto, ma dopo un bel po' di mesi, non subito. Ma quella serie lì, l'S9, non ha fatto una serie solo, Gianni, non è questione prima serie o seconda serie, ne hanno fatto una serie e poi hanno fatto il 980, perché l'hanno fatto col finale superiore, come per dire, hanno fatto il Cobra, tu c'hai il Cobra, quello normale, io qua c'ho il Cobra, quello da 100 watt in AM e 200 in SSB, che c'è a lineare sotto la pancia. Di quello ne hanno fatto due serie, mentre l'S9 ne hanno fatto una serie solo, quindi può darsi pure che siano uscite delle radio con questo problema sulla parte del frequenzimetro e le hanno continuate a vendere, capito? Tutto lì, però è così, ne hanno fatto una serie solo dell'S9. E vabbè, magari i primi usciti, intendevo dire, dai, la serie è stata una, però i primi usciti magari avevano questo difetto, poi l'avranno migliorato probabilmente, essendosi resi conto, perché c'è gente che ce l'ha ancora l'S9 e non ha mai dato problemi, perché ho sentito appunto questi CB che c'erano sull'app CB Talk lì, stavano parlando di questo e uno ha detto no, io ce l'ho quasi 10 anni e non mi ha fatto mai difetto. Sì, il mio era comprato nuovo praticamente da questo che me l'aveva fatto avere Massimiliano, poi l'ha modificato Colt e frequentemente era perfetto, non lampeggiava, io tenevo il clarifer sempre a zero e il decimale te lo dava, però non lampeggiava, mentre il Cobra, quello l'ho mandato nella foto a te fra, quello lì è perfetto, quello c'è il dim, si abbassa la luce per non essere troppo forte, perché è rosso anche quello, il frequentimetro, a fianco c'è il canale, ma non ha mai lampeggiato niente, una bestia quella radio. In SSB 10 metri ho provato, 180, 190 watt modulati alla grande, e in AM va intorno ai 120 watt, in FM non ne va a vedere, però è eccezionale anche come dice il trasmettitore. E ce n'è baracchini belli, io li chiamo baracchini, per me sono sempre baracchini già, lo sai come la penso. Io apparati chiamo questi, gli HF per me sono apparati. Il resto può essere la miglior radio che vuoi, però per me è sempre un baracchino. Ma se no è anche un decametrico. Decametrico, cosa vuol dire decametrico, tu lo sai? E che scende sui 10 metri. No, già. Quello è un semisintonia continua, decametrica è un'altra cosa, decametrica sono le bande tipo la linea Drake che è decametrica, cosa ti posso dire, una linea Cornish, una linea, decametriche sono quelle radio che praticamente le bande principali sono 10, 15, 20, 40 e 80, sono 5, poi ci sono le radio che sono decametriche, praticamente fanno i 10, i 12, i 14, anziché fare i 20 fanno i 21, i 17, i 24, capito? Quelle sono le bande decametriche, si chiamano bande VARC. Vabbè, quelle sono specifiche per quello, però 10 metri ci scende anche le 9. E allora ti dico che il Cobra scende oltre i 10 metri, però non è decametrico, è un semisintonia continua. Praticamente c'ha il VFO allunga, come si chiama? No. Se tu guardi l'S9, guarda che cosa ti fa, non so se te lo fa come il Cobra. Allora il Cobra, quando tu lo metti canalizzato, cammina sino ai 10 metri e te lo segna nel frequenzimetro. cammina sino ai 10 metri senza sbalzi, praticamente sì, canale 10, poi ti fa 10 alfa 11, 11 alfa 12, 12 alfa 13, ti dà tutti i canali alfa, tutti, tutti i 40 canali alfa ti dà, capito? E scende girando la manopola senza cambiare di banda, scende sino a 28 805, poi cambi nelle bande e scende sino a 32. Sì, lo so. E vabbè, comunque c'è scritto anche nella scatola decametrico, poi se gli danno la telomera appropriata non lo so, però siccome scende 10 metri sicuramente l'hanno chiamato decametrico per quello. Franco, va, guarda su internet che ce n'è uno, c'è scritto baracchino per bande amatoriali, sono andato a LG e cosa vasi da 26 205, mi pare, a 28 805, e cos'è baracchino amatoriale quello? Ma mi scrivono in bocca i cazzati, decametrico che aveva un'altra cosa già, prova a guardartelo su internet, è un'altra cosa, scrivono un sacco di stronzate, come anche l'altra volta ne ho visto uno, baracchino per radioamatori, cosa vuol dire baracchino per radioamatori? Cosa vuol dire baracchino per radioamatori? Se è un baracchino è un baracchino bacibino e per radioamatori, vai Fra. Ma scusate, cosa c'ha l'S9 in più del presidente Linco? Cosa c'ha? Io il presidente Linco non l'ho mai avuto, non so che cosa abbia, però l'S9 prima di tutto c'ha Echo, c'ha un sacco di roba, c'ha il turbo compressore per modulare con il microfono tipo amplificato, non lo so se ce l'ha anche il presidente. Guarda, il presidente è da 26 sino quasi 30, a 29 quasi 30, in pratica c'ha quasi tutte le cose, a parte cosa di quelle cose lì, c'ha tutto, è quasi 30, e così è il coso, la c'è l'opera. Allora Fran, ti spiego una cosa, il presidente Nicola è un bellissimo baracchino, ok? Parliamo di baracchini, ci sono due cose che dobbiamo dire. Allora, la qualità, come qualità di radio, l'S9 al presidente Nicola in base Z0, perché l'S9 è della casa Magnum, la Magnum è una delle maggiori case costruttrici di apparecchiature, rice trasmittenti, riceventi, elettroniche, strumentazione e quant'altro. Il presidente Lincoln è nato da una casa che ha iniziato a fare VHF e UHF veicolari, poi ha iniziato a fare anche baracchini e non ha curato molto la parte come ha curato la Magnum, ok? Quindi come rice trasmettitore è superiore all'S9 in tutte le sue fasi, assolutamente. Il presidente Lincoln ha una bellissima radio, ha solo la larghezza di banda che è simile a quella dell'S9, però se tu le metti vicino come rice trasmettitore, te lo posso garantire io perché le ho usate tutte e due, io l'avevo dato la banale mai Giampaolo il presidente Lincoln, e poi se l'aveva preso Sandro, e addirittura io lo usavo con un adattatore che mi aveva fatto Massimiliano Archimede, usavo l'MC60 e sembrava che stavo adoperando un Kenwood. È una bellissima radio, trasmette e riceve bene, però l'S9 è della miglior casa costruttrice al mondo, che si chiama Magnum. Sì, ma vabbè, come tecnica, come cosa, quanto, però magari mi dico che c'è anche meglio del presidente, che non ha gli stessi anni, l'S9 è uscito, quanto tempo è uscito, non è uscito da tanto, purtroppo l'hanno tolti subito, li hanno tolti, perché erano difettosi, se sono cose che erano difettosi, una cosa o l'altra, e poi ne hanno fatto un'altra serie, come stava dicendo Gianni poco fa, un altro modello, ne hanno fatto. Però, Nicolo, io ho visto che sono radio perfette per lavorare, anche a volte li usano anche qualche radioamatore, qualcuno li usa anche il 28, anche radioamatore. Gava. Sì, sì, fra, senza ombra di dubbio, l'ho usato anche io in 10 metri con la direttiva, il microfono a tavolo, è una radio che ha bisogno di potenza per poter, perché il Presidente Lincoln è una radio che non dà più di 30 watt, 30-35 watt in banda laterale. L'S9 è una bestia, perché in banda laterale eroga quasi 100 watt, l'S9, quello che ha già nel 980 ne eroga molto di più in banda laterale. Hanno un altro tipo di finale, un altro tipo di raffreddamento, un altro tipo, è più curata. Niente da dire al presidente, per carità, una bellissima radio, io l'ho avuta tutte e due, però stiamo parlando di due cose completamente diverse, capito? Completamente diverse. Come ti posso fare un paragone tra la Kenwood degli anni 80 e la Kenwood di adesso, che non esiste più il marchio Kenwood. Se tu andavi a comprare un TS, attento, TS Tacchiesuole 450 della Kenwood, era una radio che a me piaceva tanto. Se oggi tu vai a comprare l'FT 450, che lo fa la Yaesu, perché la Kenwood è stata assorbita dalla Yaesu, è una grandissima gaggata di radio, mi capisci cosa ti voglio dire? Quindi nelle prime case costruttrici che costruivano a quel tempo le radio, c'era un dialogo diverso, chiamiamolo così, nella parte della costruzione, mentre adesso fatene tutto a schede, a pulsantini, a cagadi, vai a usare la radio, rumorosa, non ha filtri, devi scegliere quello, devi scegliere quell'altro, mi capisci a tutti? Una cosa del genere, più o meno siamo nella stessa onda, vai già. Sì, adesso sto uscendo col manual, come va? Che adesso era un po' che non accendevo, dai, facciamo un giro di tutti adesso. Questa è la radio che conosco io, la tua radio con lecca lecca, morbido, tranquillo, sereno, bella radio, segnale addirittura è anche aumentato, sicuramente ha più potenza, però lo sai che... sei l'unico che ho sempre usato l'eco e non va sempre bene, bello chiaro, vai fra. Sì. Infatti io già lo sentivo sempre con l'eco, non alto, ma una puntina d'eco ci sta benissimo, ci sta nella radio. È la mia prerogativa quella, quando mi dicevo stacca l'eco, cavolo, io mi faccio riconoscere per quello, perché ho sempre l'eco attaccato. No, poi questa radio qua, guarda, è perfetta, il frequenzimetro è bloccato, 27075.0, non si muove, è di lusso, questa qui va bene. Qua stavo provando per vedere, anche per farle scaldare, queste radio sono un bel po' ferme, adesso dovrò provare l'Alan 48 Sprint. E io mi l'altro giorno stavo modulando col DAC, ogni tanto faccio andare anche quello, DAC MV+5. Adesso però ho bisogno di far andare un bel po' questa, infatti non so se spostarmela, perché questa era anni ferma, anni ferma, l'ho mandata subito, immediatamente, il giorno stesso, mandata a vista di controllo, sistema là, eccetera eccetera, controllate tutto, se c'è da fare fate qualsiasi cosa, e invece hanno detto guarda, abbiamo solo pulito tutto la trelina perché era tutto pieno di polvere, i condensatori sono perfetti, tutto lo stadio finale è perfetto, tutto il VCO, PLL è perfetto, perché sai cosa ha fatto lui? L'ha preso e messo dentro una scatola, era dentro una scatola di cartone e sopra c'era del polistirolo e quindi non è entrata umidità. Ed è perfetta, veramente perfetta, il vatel da tutti, da tutte le parti, ottima, nuova, come il giorno che gli ho dato, poverino, già ce ne è goduto di chitarrare, ma poi la stessa Geno, 6 o 7 volte, in 3 dia sempre va via un baracchino vecchio, con un microfono precostruito, ti ricordi già, di quelli da cantante che si aveva fatto lui, ed era sempre con quello, a volte le dicevo, e un lignaretto ci aveva, di quelli di macchina, e dicevo, ma perché non fai andare, no, va bene questo per modulare con Sassari, e modulava sempre con quello, che finita sempre il Vemo. È vero, quello lo teneva in cucina, dentro lo sportello dell'armadio di cucina. Sì, sotto, ti ricordi già, c'era quel pensile basso che faceva la base, sotto c'era il 440 con l'alimentatore, infatti c'ho il PS50, però come l'ho acceso è partito il fusibile, ci deve essere qualche corto. adesso quello lì lo detta per mandare da Andrea per portare al controbox a controllarmelo, e lo controlliamo, perché sicuramente lì ha preso umidità o qualcosa che ha fatto lui, non lo so, però metto a posto anche quello, così ho alimentatore per il 430 e alimentatore per il 440, sono due linee separate. Va bene, che ora si è fatta? A te, è 7:28, quasi le 7:30 sono. Sì, ancora presto, un'altra mezz'ora, e poi molliamo tutto. Cazzo, io ne ho uno, infatti la cassa non c'è nessuno che li mette a posto, la radio Baracchini, e sono pure frequenza, è stato toccato, è fatto, è mandato pure frequenza, sono da mettere in frequenza. E chi te l'ha detto che non c'è nessuno? Vai da Vittorio e te lo mette in frequenza. Via Mosca numero 2. Ma infatti vedevo dei treni, già c'è, Vittorio le fa, è lungo che è un mese di maggio, però già le fa Vittorio i cosi di Baracchini, capito? Ma lui fa altro tipo di lavoro, però non è solo fatto delle radio. E 40 anni che tratta Baracchini, radio HF, VHF, VHF, è tutto, certo c'è lavoro, tecnicamente lui ripara roba di televisione, roba elettronica, eccetera, ma non è che lui c'ha l'analizzatore, gli attacca l'analizzatore e te lo mette in isonda, non è un problema, cioè è facile per lui farlo perché c'è la strumentazione, se ci mettiamo a farlo noi esce una grandissima gagada. Quello sì, c'è un Collex che è tutto per frequenza, se non lo prendo mi avrebbe io metto male, c'è qualcuno che mi ha fatto in linea. Lo so, lui è l'unico che te lo può fare, c'è anche il cognato Massimiliano, però non so se c'è la strumentazione, che è molto bravo, a me aveva cambiato il relè del mio 440, mi aveva cambiato un relè di commutazione che si era bloccato, ho comprato la Fusara, sono andato e me l'ha sostituito, capito? Però sugli allineamenti delle radio non so se c'è la strumentazione adatta. No, Gavino. Sì, Gavino è bravo in sostituire pezzi eccetera, ma portato la radio, me l'ha fatta davanti, infatti non voleva niente, l'ho pagato lo stesso, mi ha cambiato un relè che io non ci sono riuscito perché è talmente fine, ci vuole il saldatore d'aria, aspiratani eccetera, che io non ho, quindi me l'ha sostituito lui. Sì, bisogna saperle fare quelle cose, perché se ti cade una goccia di stagno e unisce la pista è un casino, se fai un casino poi vai a staccarlo e magari fai casino, rotola sopra un'altra pista, insomma devi stare molto attento, devi avere aspiratore, devi avere tutto qua, sono lavori molto di pazienza, di coso. No, ma Vittorio ha sempre fatto questi tipi di lavori, anche anni addietro li ha fatti sempre, e Baracchini, poi li aveva mollati, adesso li sta riprendendo, perché magari c'ha un po' più di tempo e li fa. Ma quando c'è da allinearlo te lo allinea, non c'è problema per quello. Ecco, adesso quando ritiro la macchina, non ce l'ho così. Oggi sono andato a vederla, ancora non è, forse la prossima settimana me la danno, e vediamo un po', non mi avvicino a vedere. E perché cosa c'ha la macchina? Niente, l'ho portata in carrozzeria tutta verniciare, tutta nuova la sto facendo. E come mai questa decisione? perché la macchina è buona, a comprarne un'altra, avversando quella ti danno 2000 euro, ho detto no, questa è già pagata, la macchina è buona, tutto quanto, c'è un motore che è una meraviglia, ci metto 2000 euro sopra ed è già pagata la macchina. Vabbè, se va bene di motore, perché la carrozzeria è messa male? Sì, la carrozzeria sì, c'aveva uno sportello affondato di dietro e poi era tutta... il sole l'aveva tutta fatta opaca là. Perché queste vernici che usano adesso all'acqua non valgono nulla, ne fanno uscire tutto quanto trasparente, anche a me me l'aveva fatto nella strada, c'è un vego, il tettuccio c'era tutto scorticato dal trasparente, e l'ho fatto rifare, poi dopo 2 anni mi ha dato la garanzia di 4 anni, dopo 2 anni c'è di nuovo scorticato, l'ho riportata, me l'ha rifatta e poi l'ha fatto di nuovo, e quindi alla fine poi ti stufi, capito? Non c'è sai fra qual è? Magari quella giana era verde, perché esatto mi ricordo. La nostra che è nera, siccome il nero è un colore che d'estate scalda molto, soprattutto la capota fa così, anche la 147.000 era così. Lo so, ma purtroppo rimangono da sole le macchine. Sì, la mia era nera metallizzata, era. Infatti adesso la sto facendo fare nero lucido, questo cambia molto dal nero metallizzato, perché era leggera, quella grana leggera ci aveva prima, e adesso la faccio fare nero lucido, esce più bella anche, esce. E una volta qua esce dura, lunga, esce. Già, anche 12 anni non mi vuole durare. La mia, quando io l'ho venduta perché quando sono andato a Versalla per prendere la nuova, volevano 150 euro per demolirla, perché aveva l'impianto a gas, e quelle con l'impianto a gas ti fanno pagare di più, 100 euro le normali, 150 quelle con l'impianto a gas. E allora mi sono deciso, ho detto, siccome ho trovato un amico che aveva bisogno, e ho detto, asco, fa una cosa, fatti un passaggio, mi dai 200 euro e siamo a posto. E l'ho data a questo amico, capito? E se la sta ancora usando. La macchina dice un treno, questa macchina, ho fatto 150 km tutti in una volta, sono andato in continente, sono fatto 150 km con i bambini, mia moglie, tutti quanti. Immaginati tu, che c'ha 300 e passa 1000 km la macchina mia. Già, ma era tenuta bene la tua, era un gioiello. Dice Franco la Giovita, era praticamente non c'era più colore, capito? Perché lui tra i turni, le cose, non aveva tempo, riceveva la macchina, la Tefara l'ha un po' abbandonata, ma adesso quella macchina, quella è un Peugeot, il 308 mi sembra, diesel, è nuova quella macchina, c'è un bellissimo motore, lui la fa veneziare, esce nuova, com'era la tua? La tua era allucinante, diciamo, per gli anni che aveva Offra, la macchina di Gianni, era una cosa impressionante da vedere, ma nuova, E infatti me la viene da Pinica, non è giurata, non l'ha fatto 200 euro, così l'ho data a un amico che aveva bisogno, che aveva un lavoro precario, e mi ha detto, già, siccome lavoro a Porto Torres, devo viaggiare, devo farmi andare a Milano, andare a prendere il pullman, poi tutto a piedi, sempre a piedi, me ne scende la mazza, ha detto, guarda, se vuoi la mia macchina la sto vendendo, e devi subito me la prendo, se ho fatto il passaggio, via, adesso viaggio in macchina, capito? C'aveva un difetto, gliel'ho detto, l'ha portata la Opel, gli hanno tolto un difetto, diceva il pedale acceleratore, che a volte non prendeva l'accelerata, ho cambiato il pedale, invece non era quello, era un sensore che c'era tra l'acceleratore e la centralina, hanno messo quello lì nuovo, 80 euro li hanno preso ed è a posto. Avete parlato in due, sì, ma me l'avevi detto che cos'era, però dico, quella macchina, a prescindere da questo difettuccio che era una coglionata, la macchina era nuova, ho fatto fare l'interno, tettuccio, ma cosa vi si vede fra questa macchina, nuova. Vabbè, però i chilometri erano tanti e a te ti serve la macchina nuova per viaggiare. Vai fra, cosa hai detto? Aspettate un attimino, c'è qualcuno che sta chiamando sottofondo, basso, avanti, chi è? Ciao Eugenio, sei basso, non ti avevamo sentito, della verità. Non so se gli altri, penso che non ti hanno sentito, solo ti avrebbero fatto entrare. Avanti, lo senti Eugenio? No, non lo sento io Eugenio, salutalo. O se mi sente lo saluto. E farà due in un botto, si farà due oggi. Boh, non lo so, Gianni, tu lo senti? Sì, basso. Eugenio, vieni avanti, con la buonasera, dai. Eugenio. Ma non intendo più. Cosa? No, sono a Sassari. Sassari ancora. Adesso ti sento anch'io. Ma dove sei? Ah, ecco, poc'anzi magari stavi uscendo, non ti sentivo bene. No, adesso ti sento. Segnale 5, vai già. E adesso lo sento più forte anch'io. E beh, Giro, che fine avevi fatto? Eugenio, ma non lo senti a Gianni? Cosa hai detto? Non c'è più nessuno? La vecchiaia. Eugenio, io gioco in pensione, te l'ho già detto, quindi ho altre cose da fare in questo periodo. Prima uscivo al lavoro e stavo a casa e la prima cosa che facevo accendevo il baracchino. Ormai ho deciso Mazzano e rientro la sera, sono stanco, non riaccendo il radio. capito? Tutto qua, avanti già. Vabbè, oggi è capitato così, che ci siamo incrociati, perché ho sentito a Franco su quell'app là, e gli ho detto io che ci andiamo nei canali normali, e siamo venuti qua. Sì, ma capita anche l'altra volta, io sto parlando con Franco, con Giulio, però è raro, capito, perché se è bella giornata non ci sono a casa. Oggi il tempo era brutto, stamattina stava anche nevicando, quindi siamo rimasti a casa, sono andato a parte. Infatti mi ha citofonato il mio vicino, siamo in campagna, ma ho detto no, non vado a luogo oggi mi rimango a casa. E così ho fatto, ecco perché sono in radio, se no magari non ci sarei stato a quest'ora. Anzi, tra poco chiudo tutto perché sono già le 8:20. Il mio cagnone è ancora drumito, bella Dio, una iatta a bar, tutta lì drumito, quando è qua lui sta vicino al termosifone, addormentato. Avanti Fra! Cappa, è un genio dietro, è un marino di Dio. Ma in Ginella sei o rientrando? Ciao Eugenio, buonasera. Ciao Eugenio, alle prossime. Cappa, ciao Eugenio, ci ascoltiamo alle prossimine. Se vedi a quello là, salutamelo. Ciao. Vabbè. Qua... me lo vedi, ti quasi manco un quarto. C'è un orario che ormai hanno sintonizzato dalle 7:30 alle 8:20, chiudono tutto. Gli impegni sono quelli, perché poi alle 8:30 si mangia, no? Io posso buttare organi 10 minuti, faccio una passeggiata, adesso visto non sta neanche piovendo, una passeggiatina, sia alle edicola, risalgo, poi magari trovo qualcuno, vediamo che ce la metà. E poi quando rientro mi metto il mio pigiamone, ma vedo la televisione, il telegiornale, poi si cena, e l'orario sono quelli. Io quando stavo lavorando arrivavo a casa che erano 2:30, a volte anche 3:15. Sto parlando del periodo invernale, perché per il estivo facevo le 6 di mattina e le 6 di sera. E quindi quando rientravo a volte non accendevo neanche, guardavo la luce, bugiavo di macchina, muoio. Però nei turni normali, nelle giornate normali, riposino dopo pranzo, verso le 5:30, accendevo la radio e sino a quest'ora stavo in radio tutti i santi giorni. Invece adesso non è più così, perché ci sono altri interessi, altre cose, via, capito? Sei tutta lì a casa, quindi non è che puoi stare tutto il giorno attaccato alla radio. Va bene, dai, allora io mi tocco il microfono, vi saluto, ciao Gianni, grazie delle due chiacchiere, ciao Fra. Grazie anche a te, saluto eventuali ascoltoni, buona serata a tutti, buon proseguo per chi prosegue, buona cena, buon fine serata, eccetera, eccetera. Io chiudo, adesso mi vesto, vado a portare il cane a fare i bisogni e poi a domani se coincide. Vai Gianni. Sto pensando anche io a portare il cane giù. Dai, ti saluto anche a Franco. Vi auguro una buona serata e grazie per il questione. Dai, ci sentiamo magari un altro momento, anche domani. Tanto io sono a casa, non posso uscire. Andate. Ciao. Se a casa vai, ci sentiamo. Non c'è problema, adesso vediamo com'è il tempo romano. Penso di essere in zona comunque. Ciao a tutte e due, allora le prossime, avanti Fra. Ciao Claudio, ciao Gianni, buona passeggiata col cane, ci ascoltiamo, dai. Al limite se ci sentiamo domani sera, lo accendo, verso le... Vabbè, io ce l'ho sempre acceso, quando sono a casa ce l'ho sempre acceso, poi se sento qualcuno va bene. Ciao, buona proseguo. Ehi Avrà, va bene, canale 10, anche io già accendo comunque, già sono a casa, non c'è problema, o se vado in campagna già rientro presto, non sono giornate da stare a mettersi a fare niente. Ciao a domani, ciao a tutti. 1, 2, 3, prova. Attenzione, canale 10. Circu, canale 10.